conosco nessuno io non conosco nessuno assolutamente, non ci ho mai ordinato niente, non so manco di chi stai parlando. Io l'unica IRAE che conoscevo, noi IRAE 2, IRAE era Alfredo, che ha chiuso l'attività e non sta più né vendendo né facendo niente da quando è morta la moglie. E l'ho conosciuto alla fiera di Genova quando ero appena radioamatore, quindi forse nel 97-98, capito? Vabbè, ma tu hai contattato per caso Sandro o Capri, quello di Porto Torres? Sto facendo una domanda, hai contattato per caso Sandro? Già, te l'ho detto, c'è un po' di roba da vendere, capito? Se ti interessava qualcosa, non lo so, se io adesso il numero non ce l'ho, capito? E comunque, stai attento con questi 757, perché sono, ti ho detto, baracchini a sintonia continua, non si viene a nulla, è meglio molto un 140 rispetto a quello, ma quello non c'ha manco il connettore PL del TV, tu capito? Ti ho detto, con la radio non serve a niente, e se te lo sto dicendo io, l'esperienza l'ho già fatta, io l'ho comprata nuova, da Mario Nottari, tutte e tre serie, GX, normale, 757, 757 GX e 757 GX2, ok, e li ho sempre venduti, e sono, ne ho comprato sempre Kenwood, e non sono più andato via dalla Kenwood, perché come il Kenwood in AM non ce n'è per nessuno, capito? Sia in AM che in banda laterale, perché il 757, anche il GX2, è sotto del 140, sotto del 140, non sopra, sotto. E tu la radio che fa 8 memorie, ma quando mai che 101 ZD non ce l'ha più, l'ha venduto, ce l'avevo anche io, l'ho venduto anche io, capito? 101 ZD, tutti quelle radio lì, tutti, della serie 8, anche il 102, non solo il 101, anche il 102 c'è lo stadio finale a valvole, capito? Poi della serie 8, 8.20, 8.30, 8.40, il 9.20, 9.30, tutti della serie, anche il 120, il 130 della serie 1, tutti, li ho avuti tutti, ti ho detto, tutti, e hanno tutti il preselettore per il preaccordo, perché hanno lo stadio finale a valvole. No, ne ha tolto l'antenna perché abita in nelle villette a schiera e quindi l'antenna è esteticamente brutta, poi fischia e allora l'ha tolta. Si vedrà più avanti se mette qualcosa di piccolino, giusto per farsi due chiacchiere, però c'è alcune cose in vendita, chiamalo, se ti interessano te le fai dare. A proposito, ti ho detto, se te lo devi tenere quello, questi due Iaesu, abbinali l'MC80 e l'MC85, capito? Ce li ha Sandro da dare, li sta vendendo 60 euro l'uno e sono buoni per quelle radio lì, vanno bene. È certo che sì, tutte e due, uno addirittura c'è anche l'equalizzazione parametrica, mentre l'80 no, l'80 è tipo l'SM8 della ICOM, una cosa del genere, però va molto bene con quella radio, col K non va bene, col K ci vuole MC60, invece con quella lì va bene. Io ti ho detto già dall'altro giorno, preferisco che la radio abbia un graffio, no? Perché si può verniciare, più che sia malandata dentro, capito? È inutile che le radio che tu compri o che compra la gente esteticamente siano bellissime da vetrina, poi vai a provarla ad usarla ed è una cagata, capito? Scusando il termine, la radio deve essere funzionante all'interno, non al di fuori, perché al di fuori si possono fare gli accorgimenti, se c'è un graffio, la vernice, la radio, come ho fatto io, il mio ho tolto i coperchi, li ho portati da Roberto, del 440, ma li ha fatti originali, ok, con la vernice originale, perché l'abbiamo richiesta, la Massimedia ce l'abbiamo fatta fare originale, uguale, non originale, ok, la radio esteticamente, sia dentro, nuova che fuori, va bene, ma quando tu vai a comprare una radio e io sento dire nuova la vetrina, fammela sentire funzionante, la radio deve essere funzionante all'interno, non esternamente. Sono tutte e due impattate le modulazioni con questo acuto, non lo so se la voce è tua, non so che microfono è questo. Ehi, ma non te lo avvicinare alla bocca, ti ho detto, parla 10 cm dalla bocca, se no non ti capisco. Ehi, così va bene, molto meglio. processore le IAS non ne hanno in AM, poi non so se 757 ce l'ha, non me lo ricordo, ti ho detto. Io quelle che ho digitali, ma di ultima generazione, in AM non ne hanno processore. Nulla, guarda, te lo premo io dal 440, ecco, questo è col processore e questo è senza processore, la senti la differenza? Questo è senza processore e questo è col processore, da te non se ne sente differenza, perché non funziona. Come? Sì, banda laterale funziona il processore. Boh, ti sei di nuovo avvicinato al microfono, non ho capito niente, ho capito Carlo. A te ti piacciono quelle radio, continua a comprarle già, io di quelle radio non le compro mai più, perché sono radio che non mi soddisfano, capite? Preferisco più un 140 che comprare un 757, non mi interessa, è una radio che io ho usato, provato, testata e non mi ha dato nessuna soddisfazione, capito? Cosa? Sì, sì, non sto andando col microfono normale, l'ha trovato. Capito? Microfono normale, c'ha solo quel difetto e basta. Nell'accensione, poi la radio è funzionante in tutti i suoi, in tutte le sue cose, capito? Ok, va bene, va bene. Ehi già, va bene, va bene, se va bene a te, sei tu che stai spendendo, io ti ripeto, quelle radio non servono a niente, è molto meglio il 140 che quella, guarda, sinceramente parlando, capite? Perché non c'ha niente, non c'ha filtri, non c'ha nulla, non c'ha processore, una M, non va nulla, 8 memorie, capite? Non mi piace, una radio spenta. Qualcosa forse la trovi su internet, io ce l'ho ma non l'ho, assolutamente, io ho l'MD1B8, originale, bello, tranquillo, ha la connessione ICOM però, non ha la connessione IAS, capito? Perché lo uso in banda laterale con una radio ICOM e funziona molto bene. In AM non lo posso usare intanto perché non è preamplificato, allora lo uso in banda laterale con, io ne ho due di 756 della ICOM, c'ho il 756 prima serie e poi c'ho il 756 Pro 2, capito? Quindi al 756 Pro 2 c'è l'SM20, al 756 normale prima serie c'è l'MD1B8 e funziona molto bene. Te l'ho già spiegato, la IAS non ne ha affatto microfoni preamplificati, dall'MD1B8 all'MD1C8 non cambia niente, ok? Poi ha fatto l'MD100, l'MD200, sono tutti microfoni che si usano in banda laterale, non per la M, quindi alla IAS non viene fregato niente di farli preamplificati. La Kenwood ha curato molto di più perché sia dall'MC, ha fatto solo l'MC50 normale, senza essere preamplificato, poi ha fatto il 60, ha fatto il 90, ha fatto l'80, ha fatto l'85, tutti preamplificati. Perché è venuto Giovanni, quello bassotto di Yoshi, o di Usini, dov'è? E mi ricordavo solo la via lì, capito? Solo la via, gli ho detto solo la via, evidentemente è venuto stamattina. Gli ho detto avvicinati lì a Cargè, che è nella via, insomma, la tua, e vedi che c'è un controllo da fare, un contattore da piazzare più urgente possibile. Ah, stamattina è venuto, allora lo chiamo dopo. E perché io gli ho dato il numero e la via di casa tua, capito? Perché di Ottavio non lo so, ci dovevamo sentire venerdì per darmi la documentazione da passare al fontanietto. Capite? Quindi gli ho detto suona lì in quella via e guarda a vedere cosa c'è da fare, fammi la cortesia, gli ho detto, perché è una cosa urgente, che in settimana sono senza acqua, capite? No, beh, stiamo parlando di contattore, non stiamo parlando di camion e di nulla, capite? A me interessa che sia venuto il fontaniere a fare sopralluogo, quello mi interessa. Quindi gliel'hanno lasciato a Ottavio oppure gli ha detto che glielo lasciavano quando? Sì, ma perché, scusa, la nicchia non era già pronta? Perché non l'avete preparata voi la nicchia? Tu la devi fare la nicchia quando tu fai il contratto, devi essere già pronto, dicchia pronta, traccia pronta, loro vengono a collegano. Adesso si perde un sacco di tempo così. Quindi se ci sta quella da 80 per 80, 80 da 100, 80 a 110, che sono quelle standard. No, lo sportellino deve essere in alluminio, non di plastica, in alluminio. Quelli di plastica sono dell'Enel. E quanti anni ce l'hai però? È fuori norma quello, è fuori norma. La norma c'è, deve essere in alluminio. Esatto, se te lo mette a Manoa c'è scritto acquedotto. Capito? E quindi sono quelli omologati che usano loro. E poi ti rubano in fattura, però, anche 80 euro. E la mia era deve essere in alluminio zingato deve essere 80x80, 80x110. Capito? Dipende dalla raffreddiera che c'è all'interno. Se c'è un contattore unico va bene anche 80x80. Non è un problema. L'importante è che loro riescano a installare il contattore. Capito? Entra il tubo, il polietilene o non so che impianto stanno facendo. Comunque l'importante è che sia venuto il fontaniere sopra loro, l'ha già fatto, ti ha detto quello che devi fare e quindi è tutto a posto. No, molta pressione c'è lì. Vabbè, già mettono il riduttore di pressione all'inizio del contattore. Mettili un tubo di polietilene PN16, capito? Poi già si arrangiano loro. Sì, polietilene quello nero, sì, polietilene nero PN16. Può mettere anche il PN12, ma loro di solito vogliono il PN16. Non si sa mai, capito? Poi se c'è molta pressione, già controllano loro col misuratore loro e ti mettono il riduttore all'ingresso del contattore. E vabbè, dovevi essere già pronto, cioè lui trovava tutto pronto, stamattina ti metteva il contattore. Adesso stasera lo sento, che ore sono? Le 3. Oggi cos'è? Mercoledì si sì, rientro, esce alle 5 Giovanni, dopo lo chiamo. Gli dico a vedere che situazione c'è, però dovevate essere già pronti, hai capito? Perché lui stamattina si aveva già tutta la linea pronta, non faceva altro che aprire il contattore, aprire il tombino e darti pressione. E perché se voglio la misura catastale, dovrebbe essere la casa è accatastata, il nome di chi è accatastata, capito? La planimetria vogliono. Perché molta gente si allacciava con nominativi di gente morta. Beh, l'ultimo censimento che è stato fatto sui risultati, 1500 abusivi, capito? solo a Sassari. E perciò li hanno costretti a fare la disdetta, nuovo allaccio, quindi hanno ripagato 110 euro, più 80 euro di mora, capito? E si le fai una traccia, le metti il tubo dove ti hanno detto loro, dove hanno fatto la misura, che arrivi, che entri, che sia già dentro la nicchia, in modo che loro poi si collegano al tubo, alla raffagliera che ti deve dare l'acqua, ti attaccano al contattore, ti danno pressione, mettono un pressostato e basta, e poi è finito lì, capito? È già un casino, sia per la luce che per l'acqua. Io ci ho lavorato alle utenze, ti posso dire che è un lavoraccio, perché ogni qualora c'è un cambio di domicilio, un cambio di possesso di abitabilità, ci vuole tutta la documentazione, non funziona così, capito? Anche per la luce è la stessa cosa, se il contattore è testato a Claudio e ci sono dei problemi, non può essere testato a Gianni, quindi va volturato, ok, quindi cessata attività di Claudio, inizia attività di Gianni, e va messo il contattore, va riazzerato il contattore, va messo il contattore nuovo. Le cose fatte bene, capito? Come si fa per l'acqua, la stessa cosa, si toglie quello vecchio e si mette il contattore nuovo come il nuovo allaccio, quindi il contattore sarà a zero. Non è che tu puoi, tra un anno ti fanno un controllo e c'hai 5-6 metri cubi in più, dici ma e questi? Ah, questi non sono i miei, sono il vecchio proprietario, e chi li paga? Così funziona, capito? Molti sottovalutano le perdite, anche una goccia, nell'arco degli anni fa metri cubi, hai capito? E poi la goccia si allarga, e così quando sono le perdite, se sono prima del contattore, dovete sempre avvisare, sempre, c'è un numero verde, avvisate, il fontaniere viene, rileva il problema, chiama l'impresa e lo fa mettere a posto. Se poi è dopo il contattore ti arrangi, sono problemi tuoi, capito? Quindi bisogna sempre stare attenti a queste cose, perché poi mentre i cubi salgono e dice ma io non l'ho consumata, ma qua risulta, il contattore gira, se sta girando o c'è una perdita, o lei lascia il rubinetto aperto 24 ore, è successo a me, capito? È successo a me quando ero alle utenze, nella zona di Alghero, lì, di Arenuso. Fortini e Alghero, il gestivo corale da Bona, e mi è successo. Quando sono andato a fare dei rilievi, ho detto, ma scusate un attimo, mi dà l'ultima bolletta. Ho guardato l'ultima bolletta, ho guardato quella attuale, ho detto, ma qua ci sono 1500 metri cubi in più, siete due persone, dove va a finire quest'acqua? Io non lo so. Ho chiamato l'impresa con lo strumento, controllando che tipo metal detector, no? Ma fare del genere. Si rileva praticamente il rumore dell'acqua nel sottosuolo. E manco di 10 metri abbiamo fatto lì nel giardino, si sentiva proprio perché c'hai le cuffie e quindi fai andare lo strumento. Si sentiva stato un fiume sotto. Ho detto, qua c'è una perita grossa pure. Ho chiamato l'impresa con lo scavatorino aperto, intanto c'era un tubo rotto, minimo un anno, 2 anni, perché era già tutto rugginoso. Loro pagano perché era all'interno del coso, io gliel'ho fatto per cortesia, però la riparazione l'hanno pagata. La riparazione di un intervento d'impresa sono 600 euro, non è che l'impresa sposta lo scavatorino col carrello, il camion, due operai, non sì, 600 euro ti costa la riparazione, anche se non ti cambiano il tubo, che ti mettono una fascia, un collare, 600 euro costami, capito? Ma no, te lo fattura, te lo mette in bolletta, Se fuori strada che prima del contattore, prima che praticamente della linea di Abbanoa, allora Abbanoa ti fa l'intervento, non ti fa pagare niente. Ma se tu l'hai consumato, che il contattore li ha letti ed è all'interno la perdita, ti la paghi, è come se te la paghi. Trovati tutto, guarda quanto tubo di pulitura ci vuole, se ci vogliono raccordi, gomiti, curve, prenditi tutto e te lo fai fare. L'importante è che il tubo di polietilene entri almeno 30 cm all'interno della nicchia, perché poi loro fanno la sagoma e collegano il contattore con i raccordi, con i nipples che hanno loro, capito? Va bene, dai, già, ci sentiamo più tardi però, perché sono le 3 e ho un paio di cosette da fare e poi mi voglio sdraiare un po', perché io sto rientrando al lavoro, sono rientrato alle 2, ho pranzato, sono entrato qua a fare una sigaretta e ho sentito te. Ok? Dai, ci sentiamo più tardi, va bene? Dile Ottavio di stare tranquillo, adesso che sono venuti, in giro di pochi giorni, appena siete pronti voi, ci avete il contattore. In ogni caso, se hai problemi, avvisami, capito? Ehi, già, salutami Ottavio a tutti, dai, ci sentiamo più tardi, va bene? Ciao! Marco, vente conmigo, Marco! Come tu? La pizza è tortu, Marco. Se vale le mise, pero tiene clavija gorda. Sí, digo, ¿para qué vamos a correr tanto? Si ya tenemos gorda. Ho guardato un'altra mezz'oretta di televisione, alle 11 e mezzo, ma ovviamente mi sono bucato. Sì, io non lo sapevo, se no sono rientrato pure io. Sì, eravamo lì, non c'era niente proprio in televisione, non c'era niente di nulla, capito? E allora siamo messi a chiacchierare, a scazziare più che altro, va. Già era tardi. E niente, si è fatta quell'ora. Io ti sei divertito ieri, ah? Ma Marcolino non pensa chi è stracco. Mimì. Sì, quello, quel porco. E allora? Con Antonello, era. Scazziando, tutto scazziare. No, già, se lo chiamo io già entra. Brutto porco, ci sei. Eccomi, sempre a bocca piena. Vicola, sempre a bocca a pompa, sì. E anzi, se sta pranzando oggi, sta pranzando presto. Infatti. Eia. Pranzando, sai. Eia. E allora oggi, dai, non sei così, sono le 6:15, magari è iniziato alle 5:30, già va bene. Un orario abbordabile, dai. Un giorno ho pranzato anche io alle 4:30. Già va bene, già va bene. E nulla, ti ho detto. Dicendo due fesserie, due cose, sono fatte le 11. Poi alla fine stavo crollando io, e stavo facendo un po' quei cazzate. Mi si stavano chiudendo gli occhi, c'avevo la luce accesa, al neon, mamma mia, mi stava dando un fastidio, guarda. E quindi ho chiuso, poi voi tardi avete chiuso Antonio, ma o Marco? No, giusto due paroline e poi abbiamo chiuso. Anzi Antonello si è assentato un attimo e è scomparso, quindi ho spento anch'io. Ma sai perché sto mangiando prima? Perché poi devo salire da Antonello e gli devo programmare queste due radioline. Due radioline, due Baofeng 888, quelli base, no? Sperando di riuscirci, no? Perché col fisso ci riuscivo, col computer fisso, col portatile un po' un casino era, però non è detto. E siccome devo andare alle 6:15, andiamo da Nico a berci una cosa, così almeno sono a stomaco pieno e non mi fa niente. Qui, se ci vuoi scendere, noi siamo lì. No, Marco, lì, io sono in periodo del cane, alle 6 lo mangerà Filippo, ma tolgo le balle. Alle 7, prima delle 7:30 lo porto, perché poi c'è la partita, cioè sono tutte le partite stasera, che mercoledì mi guardo lo sport, se non sarei uscito, capito, però c'ho queste cose. Se c'hai quel cavretto, se lo fai, già riesci a metterlo in sesto, dai. Poi poco fa mi sono messo lì, effettivamente ragione Antonello, c'è gente che parla, non si capisce chi è, però c'è gente che parla lì a 462-125, ma a me mi sa che siamo vicino a dove erano i vigili urbani. Non lo so, non Natali, si sente qualcosa parlare, bassa, perlomeno da me, capito, perché l'antenna che ho io non risuonano. E con l'antenna quella che c'è nella finestra lo stesso, anche con l'antenna grande un pochino più forte, però non si capisce se sono bambini, gente che lavora, non lo so, perché io infatti stavamo discutendo di queste cose, capito? Non lo so, riprendi Marco. Eia, un attimino, sto masticando. Eia, poi quando entra Gianfranco chiediglielo cos'è quel CDMA, capito? Chiediglielo. Hai provato col mio Marco, no? Non ci capisco, non ci vedi. Infatti mi ha chiesto Gianfranco, perché quando me l'aveva prestato lui, uno dei suoi, me l'aveva programmato lui per spostarmi poi a fare una cosa e l'altra, non sono mai riuscito. Ho rotto le scarpe. Infatti non mi piace per quella mai portata. Se dovessi cambiare idea, fare qualcosa di meglio in digitale, cassa, uno addirittura alle 2:30, cazzo, ma dimmi due ce ne ho di venire alle 2:30, però purtroppo sono fai così. Se di queste quattro uno è molto interessato, telefono, mi ha detto guarda ma quella zona mi piace, io ci sono di pronti, cazzo gli dice già non è nulla, quindi speriamo che vada bene, perché così porto avanti il mio progetto, e se dovesse andare così allora devo togliere tutto immediatamente, imballare tutto e liberare la casa, perciò anche per pisare il radio. Ci siamo divertiti però ieri, non lo facevamo da secoli, a chiudere a quell'ora addirittura, eh? A dopo le 11 siamo arrivati, 11:10 mi pare, vabbè ogni tanto si può fare, dai. Ecco, io ho finito di mangiare, io andrei a prepararmi, a vestirmi che sono ancora in pigiama, e poi con calma salire su da guida, così vediamo se riesco a programmarmi, perché sai cosa c'è, un'incompatibilità certe volte con questi driver, non il programma, no, aspetta com'era, dei driver, ah già non mi viene il nome, vabbè non mi viene il nome, dai, sono dei driver per il cavo, per il cavetto, e se non sono giusti o sono contraffatti non funziona niente, è un casino. Non so, a me me l'aveva, non Wolfgang non ne ho io, sul box non c'è bisogno di programmare niente. Va bene, vai, riprendi un attimo lì. Via. Alla benemera. Io ce ne ho uno di quei cavi lì. Di questi, di cui avete per programmare quegli affari? No? Non lo so. Non sono capace a fare quelle cose. E quindi niente, il mio è normale, di quelli box, quindi a posto. Va bene, stai andando quindi a prepararti, dai. Vai Marco, vai, un attimo a break. Ehi, dai, vado a prepararmi con calma, però tanto mi... Adesso sei un quarto, Giulia. Vi lascio in buona compagnia, mi pare che sia Capri 2. Capri sei tu? Dai, io chiudo, ciao a tutti. Ciao Natalì, ciao Claudia, dopo. Ciao, dopo. Ah, va. Ecco già, io ti chiedo una cortesia. Poi una radio come Cristiani, perché non ci capisco niente. C'è un'alternata allucinante. Io non lo so perché continuano ad ascoltarmi. Ti sento male, stai uscendo male. Metti una radio come Cristiani, dai un partito di chi c'è radio, cazzo. Un baracchino serio. Cazzo, un baracchino serio, c'ha il 440 nuovo con l'MC60 e si mette con questi catamarani, con questi catarri vecchi. Una lampadina, ma mettili in vetrina, buttali via, metti una radio seria quando entri. Entrare in radio è per farsi ascoltare, non diventa macco ascoltarti, è male, qui, là. Entra con una radio come Cristiani, ce l'hai, cazzo, se non ce l'avessi, non ho capito niente, furia che la siamo detta, furia che la. Ma sai quante ne ho io? Ma ti pare che io devo entrare per non farmi sentire? Io entro per farmi sentire bene, furia che la, cazzo, sei tutto impastato, c'hai alternata, non ti capisco. Ce l'hai, te l'ho detto che ce l'hai l'alternata, te l'ho detto poco fa e tu mi hai detto forse perché stavo saldando, non è un problema di saldare, non ti capisco, sei tutto impastato, con questo rumore di alternata. Natali, come lo senti tu? Io lo sento male. Quella di ieri deve mettere la radio, manco lo sento io, figurati. Figurati, Natali non manco l'intende. Metti una radio seria già, e se no stiamo tutta la sera con questo problema, tutta la sera con questo problema. Non diventa più un rilassamento, cara. Dammi retta, furia che la vonera in trasarmario, buttacela da una parte, attaccati il 440. Ma cosa te l'hai comprata a fare il 440? Sei attento a tenerla fra. continui a buttarci via soldi, boh, vabbè, fai come vuoi già, io te lo dico per te, poi metti una radio seria, perché io non ti sento, ti sento male, ti sei 9 più 20 con questa radio, la paura, tutto il rumore risotto, boh. Va bene, vedi, già stai andando meglio, anche se la radio non è eccellente, però almeno non hai rumori, non hai... se non funziona quel microfono, buttalo da una parte. Cosa stai a continuare a attaccarlo? Ma cosa ti nafutti? Poveretto, se vuoi uscire bene con quella radio, se funziona bene, che è a posto, mettiti un microfono preamplificato, capito? Un microfono preamplificato, ci devi mettere. I microfoni, che te lo dico io, che li ho già provati, che vanno bene al 757, sono i microfoni della Kenwood, ok? Della Kenwood 80, l'85 e l'MC60, basta. Se no, non li togli i piedi, perché la Yaesu, i microfoni preamplificati per quella radio, non ne ha fatto. Devi metterci un 80, un 85 o un MC60. Sono dei bei microfoni, non è anche, se non è il suo, però sono dei bei microfoni. E esci bene, allora esci bene. Per quel microfono normale, se tu te lo avvicini alla bocca, sei tutto impattato, invece. Sì, ma sei basso di radio. A questa distanza potrebbe andar bene, però Natalino non ti sente, capito? Natalino non ti sente. Non so con che potenza stai andando, ma Natalino non ti sente. Cosa vuoi ti dica? Comunque, rimane il fatto che c'hai il 440 che funziona bene e lo stai tenendo dentro la scatola. E io ti consiglio di non tenerlo dentro la scatola, perché se lo accendi fra qualche settimana e non lo usi e inizi a fare i puntini, ricordi che sono dolori, sono dolori, capito? E penso proprio di sì, penso proprio, già il 440 nasce con un difetto suo, no? Che è quello dei condensatori che si scaricano, di tutta la parte dell'IVC, eccetera eccetera, in più lo tieni fermo, io ne avevo due dei 440, uno non lo usavo e uno sì. Ok, quando ho venduto quello che usavo, sono andato a mettere in funzione quello che non usavo e l'ho presa nel QSO, capito? Ho dovuto spendere 180 euro per metterlo in sesto, perché accendevo, non c'aveva la ricezione, la trasmissione, tutto il display a puntini, puntini, puntini, puntini, capito? E l'ho mandato a Biancone, ha cambiato qualche 10 condensatori, resistenze, diodi, transistor, tutta riallineata, un casino. Tu lo devi tenere lì, Gianni, io ti capisco che sei appassionato di baracchini e di roba vecchia come me, ma io la roba vecchia ce l'ho dentro l'armadio, capito? Uso la roba nuova, la roba che esce bene, che mi fa sentire, che mi dà soddisfazione. È inutile che tu usi la roba vecchia e ti tieni quella nuova dentro l'armadio. Lì ti ho detto dall'inizio, da quando ho tirato il microfono, metti il 440 con il M60 e boh, tutto il resto è noia, lascia perdere, finito, finito. E le tieni come collezione, boh, è inutile che ogni giorno ne attacchi uno e ogni giorno lo stesso problema. Questo è una cosa che ti ho già detto anche di persona, no? Quindi, cosa fai col microfono suo se è un microfono normale? È come che stai uscendo così, esci, come stai uscendo adesso, esci con l'MD1B8, capito? Esci uguale, preciso identico, non serve a niente. Io ce l'ho, ti ho detto, te l'avrei anche prestato a provare, ma c'è la connessione, è ICOM, non è IAESU, capito? Anche quello, se non sa trasmettere, c'è qualche problema di fondo, che cosa non lo so, capito? Però qualcosa di fondo c'è, non lo so, Gianni, bisogna verificarlo, io ti ripeto, quelle radio possono essere belle, piacciono, di bella presenza, però non hanno la funzionalità come quelle della Kenwood, capito? Sono delle radio fatte da Gaddimi, tutto qua, quello che sto dicendo io. Avanti, Natalina lo riprende, aspetta. Devo volare a 10 watt, bene, mi ho messo gli occhiali. Ecco qua, 10 watt col K, sono più che sufficienti. Ok, riprendi. Il mio K, 440 mio, quello che... ha sempre funzionato, fino a quando ha funzionato, poi un paio di anni fa mi ha lasciato a piedi, capito? Adesso lo sto usando, io gli alterno 430 e 440, capito? Perché anche il 430 l'ho ritirato a metà settembre l'ho ritirato, era da giugno e poi ha chiuso per ferie, quindi l'ho ritirato a settembre. Da giugno Bianconi ce l'aveva, fate il conto, ha tutto rimesso a posto, tutto cambiato, un sacco di cose, un sacco, proprio perché non lo usavo mai, capito? Oppure l'ho usato, però poi anche quello mi ha lasciato a piedi. Ecco perché ti ho detto, quando compri queste radio, soprattutto di queste dimensioni, di questa strada, di questa marca, stai attento a comprarlo, come ti ha detto Antonello, a comprarlo da chi è veramente è fidato, perché se io dovessi vendere questo, un anno di garanzia la do. Però perché? Perché sono sicuro di me, capito? Perché la radio è revisionata neanche due anni fa, e quindi quando lo vendo perché la radio va bene, è revisionata, quindi non ti può lasciare a piedi dopo un anno. Un anno di garanzia io la do, ma tu se vendi quella tua non la puoi dare un anno di garanzia, perché tu l'hai già comprata, non sa essere revisionata. Se te l'hanno detto e non è vero, fai brutte figure. Io invece sono sicuro di me, perché ho la ricevuta della revisione di Bianconi, quindi, capito? Si è andato a prendere 440, bravo, così. Allora, manco ti intendo mettere i cristiani. Natali. Oh, yeah, sono qui. Ma quello che gli avevo dato io è il 440. No, quello l'ha venduto a Roberto Quadrato. E anche a Roberto l'ha lasciato a piedi, così mi ha detto. Se l'ha fatto revisionare anche lui. Boh, a me non mi ha dato mai nessun problema. Ehi Natali, ma lo sai come so questo radio? Non ti avvisano, ti dà capire e boh. Ti dà capire, a me aveva iniziato un giorno così sono entrato a casa, lo accendo, mi sono seduto, la radio si è accesa subito sul canale 10 e poi è sparito il display, tutto puntini, taglio dito. Porca miseria, così due minuti dopo è riapparso il display e quello era già il campanello di allarme, poi ha iniziato a farlo più spesso, capito? Perché prima iniziava a riprendersi dopo 5 minuti, vabbè, si abbiglia le luci, si riprendeva, poi ha iniziato 10 minuti, poi ha iniziato mezz'ora, poi ha iniziato dopo un'ora, io per poter guardare lo dovevo accendere un'ora prima, poi Natalì non ha atteso più, una di là, uscendo a lavorare alle 6 del mattino, l'ho acceso, sono tornato alle 2 ed era ancora così, non si era ripreso più, l'ho staccato, ho chiamato a Bianconi, gli ho detto il problema, gli ero mandato e me l'ha revisionato, così mi ha lasciato a piedi, il primo campanello d'allarme, state attenti, quando inizia a fare puntini, display, e dopo un pochino si riprende, quello è il campanello di allarme, mandatelo subito a riparare perché già lì riuscite a recuperare qualcosa, io ci ho dovuto rimettere 180 euro più il viaggio. Scusa, entri? No, stai attento che già lo fa, dai. Beh, io sono qua, fai passare la processione e poi riprendi, capito? Natali, che Gianni Capridue sta passando la processione, ha paura che entri dentro la colonnina del prete. Basta non parlare. Infatti l'ho detto non parlare, fai allontanare la processione e poi parli, capito? Se lì non va bene entrare, entra sì in chili. Ave Maria, da voi intendevo di detto. Non andare. Poi, botte chi fa? Giusta la gioia che era un megafono. Ascolta, stai andando sempre con quello là? Notizie, tutto ok? Tutto ok. L'hai visto? L'hai attivato da prima con Marco. A volte una fesseria può essere utile. E intanto quello solo di Marco non ce la faceva. Gli ho messo l'altro pure. Ne ha due, perché sennò non ce la fa con quello di Marco. Ah, va bene, già va bene. Già va bene. Poi sempre appena iniziare, ma appena sempre a dargli qualche watt in più, no? Per vedere come prova tecnica, vedere sino a dove arrivi, capito? Magari 5 watt, 4 watt di portante bianca anziché 1,5 watt, capito? Aumentare appena appena e vedere se ci sono notizie buone. E infatti, adesso ciò va là. Dalle 2 watt in più, niente di che, capito? 2 watt in più, e vedere se le notizie sono sempre quelle. No, in più, sì, sì, in più. Adesso sono con i watt omologati, 5 watt. Sono, capito? Oh, non tocca, se lascia stare così, lascialo a 5 watt di omologazione, i picchi lasciali dove sono e lascialo così, non lo toccare, vediamo se è tutto regolare sempre, capito? E infatti gli ha abbassato l'alimentazione, gli aveva abbassato per non andare più di 5 watt. Esatto, e anche io ce l'ho a 13,5, prima era sempre a 14, però Bianconi mi aveva detto di tenere l'alimentazione non più di 13,2-13,5, e quindi me lo sono regolato lo stesso l'alimentatore da dentro, non fa più di 13,5, capito? Non è appoggio, lasciala così, 5 watt sono più che sufficienti, già va bene. Sì, infatti adesso vediamo un po', là. Speriamo che vada bene. Cosa vuoi che cambia una salita a 2 watt e a 5 watt? Detto se lo buoni a 50 watt è diverso. Ma hai dato 2 watt in più, non cambia assolutamente niente. Hai cambiato il segnale, però per il resto non penso ci siano problemi. E l'importante è che non disturbo, a me mi interessa uscire bene, che non disturbo. Uscire bene, sei ottimo, radio bellissima, segnale è 9,10 con picchi a 9,20, fate il conto, vai più che bene. E vediamo, speriamo di andare bene, così usavo sempre a 5 watt. Allora, 5 watt sono più che sufficienti, ti ripeto, non cambia niente, già va bene. Sì, Antonello ha comprato questi due portate di cinesi e adesso Marco va a vedere se riesce a programmargli. E stiamo parlando di questa cosa, sono un sacco di frequenze in alto, in UHF, ne fa vedere i bizzini, di tutto, allucinante. Infatti ho fatto la prova io oggi con quella grande, con lo scanner, e effettivamente quando arriva lì c'è gente che parla, non si comprende. Speriamo, perché quella lì è una frequenza che non si potrebbe andare. Ma devono bassi bassi, capito? No, noi non ne stiamo parlando, poi c'è un tono anche, una cosa un po'. Sì, Marco mi ha detto che è una frequenza del ministero, Vabbè, comunque, io già non ho già andato a lungo, già sono qua, però avendo tutte le radio stavo controllando, facendo, anche ieri notte, poi non c'avevo troppo sonno, ci ho mollato tutto, oggi mi sono messo a ricontrollare, effettivamente è così, c'è qualcosa sotto, non so, vabbè, stavano a arrangiare la fitta, sai. E infatti, se riuscivano a scenderle qua, magari, andava meglio. Beh, ripeto, non riesco a capire chi sia, perché sono talmente bassi da me, che non riesco a capire chi è. Cosa fanno, perché sono lì, se gente autorizzata, nel senso, può essere anche un corpo di qualcosa, non lo so, comunque, poi io adesso me lo so rimessa in banda amatoriale, la radio, l'HF, Sabine e Luci. E infatti, a rimane mi ha fatto il ridicolo Branco, una scena. Franco, non si è sentito. Franco, a Bisese. E io, ora il rumore di alternata c'hai. È che Natalino non ti sente. Marco, non so se è ancora a casa. Marco, c'è qualcosa sì nella radio. Tanto dice c'è un rumore. Se avessi avuto WhatsApp, cazzo, ma è un telefono di plastica. Te l'avrei fatto ascoltare, te l'avrei mandato su WhatsApp. È un rumore brutto, un rumore un po' forte. Cosa vuoi che ti dica? Dirò io il lido con il presidente Lincoln, almeno è tranquillo. Ma ne ha un sacco di anni di radio, per carità, sono tutte radio d'epoca, tutte radio adattate che vanno anche bene, che quando esce col console è una bomba. Però ho comprato questi 757, uno GX e l'altro GX2. E uno non esiste, l'altro tipo lampado. Oh, mamma mia, quegli apparecchi, poi ci volano di frequenza. No, ma io li ho appunti, non mi sono mai piaciute a me quelle radio. È la schifetta più grande che possa aver fatto la IAIS, la verità. Capito? No, non hanno niente a che fare con il Kimball, il 140 è mille volte superiore a un 757, proprio alla grande, è una radio che non mi dice niente, non ha niente, proprio spenta. Ma perché gliel'hai tolto? Questo va meglio, si sente, ma si sente molto meno l'alternata. E già l'amplifichi tu, non ti preoccupare con la voce che hai. Lo senti più basso, è vero? Vuol dire che qualcuno ha toccato qualche trimerino lì. Qualcuno ha toccato qualche trimerino, sicuramente, perché di solito i ricetrasmettitori ESO hanno un'ottima ricezione. Se lo senti basso, Natalino sta arrivando a 20 qua. Da te lo sentivi, lo devi sentire, capito? Basso, ma lo devi sentire, sicuramente. Aspettate un secondo, ho Natalino, un minuto solo che devo mangiare il cane. Capito, Capri? Un minuto. Ok. Ecco, vieni Natali, siamo qua. Cani, pronto a parire, Gesù. Natalino. Eia, cappa, cappa. Allora, c'è nessuno? Natalino sta facendo cosa? Vabbè, dai, adesso sono le 27. Eia, assolutamente, non fa niente. Solo per quello, guarda, quando funziona. 440, ma fa gubba. 140 devi fare il fuoco prima di parlare. Questo tu lo lasci a 20 lo trovi, a 10 lo lasci, a 10 lo trovi. Non c'è bisogno di fare scaldare niente. Ok. Ciao Natali, se sei d'ascolto. Signora Concetta? Non ci parla con Concetta qua. Non ci parla con gli uomini Concetta, parla solo con Natalino. Natalino non è un uomo. Vabbè, ci siamo visti stamattina, tu mi dirai, ma è marito, beh certo, ci mancherebbe. Natali, a te siete un giorno. Aspetta, sta facendo cosa? Dimmi, te l'ha portata quella staffa? Sei riuscita a metterla un po' in sesto? No, staffa non me l'ha portato. Io gli ho dato gli spezzoni del tubo che gli servivano, quello di dello scarico di lavandino che ci vuole come cosa. Adesso su quello ci vorrebbe un tubo per entrarlo, per poter stringere i cavallucci. Poi no, non me l'ha portato lo cavallucci, l'avevo si è dimenticato, boh. E perché quella staffa voleva messa la morsa, gli ho detto, data una sistemata, fatto un altro foro possibilmente, oppure una fascetta di quello in ferro ci vuole per stringere, perché il cavallotto va bene, glielo dati tutti, però sopra il perno che rimane attaccato al cavallotto, al tubo, quello lì è spaccato, è aperto perché ne era caduta l'antenna, capito? E quindi l'ha aperto, l'ha forzato e l'ha aperto. C'è da ripristinare quello, ho detto vai da Giulio, mettete in morsa, le fate qualche accrucchio. No, per il resto già va bene. Ok, appunto, no, evidentemente si è dimenticato, stamattina ci siamo visti, tu sei venuto in bottega, e io stavo appunto sistemando quel discorso locale, no, come ti ho detto. Per cui, però evidentemente lui la staffa sarà dimenticata, non mi ha detto niente. Sicuramente, pure non l'ha ancora preparata, sta preparando prima l'antenna. Ha pagato, perché sta giocando Atalanta Chievo, no? Atalanta Verona, Verona, il Chievo gioca con Milan, stasera. Il Chievo gioca con il Verona, sta giocando con l'Atalanta, e il Chievo gioca con Milan stasera. Si pelle con Chievo a Verona, Romila, stasera Montella ci va delle valigie, tranquillo. E attenzione al Genoa, perché il Genoa è forte in casa, il Napoli deve fare un gioco forte. a Genova, non è giugente gruggoso, eh. Ok, beh sì, in effetti ancora non ha vinto il Napoli, bisogna vedere stanotte come si mette la partita. Certo, e il Milan, anche se dicevo che il Milan non mi interessa, interessante che perda sabato prossimo, è quello che mi interessa. Oh, yeah. Peccato che non c'è Bonucci, che non mi ha fatto un po' brutti figuri. Comunque staremo a vedere adesso stanotte, speriamo ogni tanto che vinca la Juve. Tanto stavo rispondendo a Antonello che è in macchina con Marco, non la farà una commissione. Sì, però hai visto l'Inter che ha vinto, lei prima la sola, ci credi adesso? Che ha vinto con la Sampdoria 3-2, eh? È una bellissima partita, ha fatto un gol Icardi al volo di collo pieno, su Maria da 30 metri, allucinante. Sì, ma lo sappiamo, Icardi è un gran giocatore, Icardi è un giocatore che non partecipa alla manovra, però se gli metti il pallone in aria è micidiale, questo sì, ma lo sappiamo, tranquillo, quello. Però non c'è da dire anche questo, me. Guarda che stava vincendo 3-0 e poi due volte se le ha presi anche l'Inter, per cui vabbè, poi è forte, sia ben chiaro, è fortissimo, l'Inter quest'anno è straordinaria perché Spalletti è riuscito a far quadrare bene tutti i collegamenti fra giocatori eccetera, per cui gioca, ok, non è spettacolare, però è molto ma molto producente il fatto di vittorie. No, è forte. Ma è forte perché c'è l'allenatore. Ce lo continuo a dire, l'allenatore. Mi ha passato l'Inter di allenatori. Io ho sempre detto, l'Inter è una squadra fortissima. Manca il perno, che è l'allenatore. Quello che comanda, quello che sa il gioco che deve fare l'Inter. E finalmente è arrivato Spalletti. Spalletti non è un allenatore da... Cipitono, Spalletti è un bravissimo allenatore e l'Inter sta dimostrando di rispondere all'allenatore perché sta rispondendo molto bene, sono contento per carità, non sono interista, non sono anti-interista come Luca Del Monte che è anti-juventino, cane morto, io sono sportivo, a me la squadra quando piace la guardo, capito? E vabbè, noi oggi siamo contro lo Spal, contro il... Dove con la squadra di Ferrara. Vabbè, sicuramente sarà una passeggiata per la Juventus, perché non ha fatto così all'Udinese, però intanto bisogna sempre prendere punti, andare avanti e non perdere. Quella di sabato è una bella partita contro il Milan. È una bellissima partita, però non bisogna perdere punti perché ne abbiamo già perso due e sono molto importanti, capito? Io non sono abituato a avere la Juve dietro, anche se il campionato è ancora lungo e è a due punti dalla prima, però non sono abituato, capito? Beh, se facciamo questa considerazione, intanto abbiamo perso 3 non 2, per cui perché erano 5 punti, adesso siamo a 3. Il discorso è quello, perché il Napoli aveva pareggiato, sì che un punto ce l'ha fatto la scorsa partita. In effetti dovrebbe vincere, in teoria la Juve dovrebbe vincere, però a me non mi va giù il fatto che cambia tutte le volte la formazione, anche oggi ce ne sono 3 o 4, ma non è possibile ritardare la Roli, non posso vedere, non lo posso sopportare, perché io sono sempre del parere che bisogna mettere sempre la squadra più forte in tutte le partite, al limite si può anche fare turnover, ma di 1-2, ma di quindi può sempre 4-5, non è possibile. Tu vedrai che oggi con lo Spal riposa anche Buffon, vedrai tu che riposa anche Buffon, tranquillo, è una cosa allucinante. Quest'uomo si è rincoglionito proprio, capito? Perché io non lo so, c'è la squadra titolare, nella squadra titolare contro il Milan non ne guardo più, se non gioca Dani Costa non ha mai dubbio di quadro, perché è impossibile, gli ha dimostrato tutto, è entrato 3 volte e tutte e 3 volte ha fatto segnare, tutte e 3 volte, ok, il gioco cambia completamente nella fascia, cambia completamente. Foggia continua a punirmi a Turaro, continua a punirmi a Rugani, continua a mettermi a Quadraro che c'ha partite sì e partite no. Fai giocare a Daniel Costa, fallo ambientare bene, a chi dice un giocatore che palla al piede, non ruffemmi. Indubbiamente, appunto anche oggi, oggi vabbè il portiere può anche andare nel cambio del portiere, ma oggi gioca Mazzati, gioca l'altro come si chiama, Rugani, siamo a tutta la difesa, non c'è che lì oggi, non è possibile. Poi gioca da Grascosta, vabbè, ci manca Manzo, qui c'è giusto che metta lì qualcuno deve ripiazzare, ma questo è un altro discorso. L'attacco non mi preoccupa, che mi preoccupa a me è la parte difensiva della squadra. E se uno continua a fare tutti questi cambi sempre in difesa, ma non è possibile, dai, non è possibile, non riescono mai ad entrare in grande sintonia i giocatori, per cui il gioco sarà sempre evanescente. Attenzione allo Spal, che non è una squadretta, capito? È una squadra che si difende bene e che sa giocare a pallone, stia attento, perché si perde con lo Spal l'ultima in classifica, è una squadra che è arrivata dalla Serie B quest'anno, allora Allegri se lo gioca davvero il posto, la reputazione, per carità di Dio. E quello è il problema, che già la difesa è a farfalle, cambiare il completo che va chi lì, immaginate di conchigli. Comunque è stato dichiarato in sordina, ma c'è chi sembra che Bonucci abbia fatto il fallo e si abbia fatto dare due giornate per non giocare contro la Juve. Addirittura, e allora è proprio un deficiente nel vero senso della parola, allora non è un professionista, allora è un buzzurro, allora non è possibile che un campione pagato 7-8 milioni un anno che possa comportarsi in quel modo. No, mamma mia, se effettivamente corrispondesse a verità questa voce qua, non due giornate, ma allora bisognerebbe dare dei 6 mesi di cosa, una federazione dove in quel caso intervenire di nuovo, perché non è possibile che un professionista arbitra pagato a fior di milioni che possa fare una cosa del genere solo per cercare di favorire la Juve. Ma vuoi scherzare? No, adesso non, speriamo che non torna anche con la voce, perché sennò è proprio la fine adesso, Lo sto dicendo, non ha detto mai fatto che milanista. Lui è proprio socio del sito, come si dice, del Milan. E sembra che c'era una cosettina che si parlava, appunto, nei social si parlava che Bonucci l'ha fatta apposta, capito? L'ha fatta apposta in quell'azione a sollevare il gomito e a darle un bel colpo proprio visivo dove l'arbitro lo voleva, per cui tiro fuori, per prendere due giornate, capito? Quella di oggi e quella di sabato, contro proprio la Juventus. Ha calcolato tutto, maledetto. Bonucci, mica è Maro, mi Giulio. Maro è un calcolatore, una persona, mamma, io guarda, come giocatore mi piaceva o non mi piaceva, come carattere, con questo muso sempre con gli occhi abbassati, come tardi, capito? Mi dice Guido lo più forte. È una persona molto, molto strana. Ma se così sarebbe proprio un giocatore molto scorretto, non poco, no. Molto, ma molto antisportivo, incapita, io lo credo, che poi avrebbe potuto farlo anche oggi, ad esempio, per farsi buttare fuori lo stesso per la prossima partita. Invece addirittura penalizza la squadra per due partite, cioè la sua squadra la penalizza di due partite. Oggi è il prossimo sabato contro la Juve. Capita, no, se sarebbe veramente organizzato questo, sarebbe proprio da squalificare, ma non la federazione, oltre alla federazione anche il Milan stesso dovrebbe dargli una bella multa, ma una multa solo di milioni però. Ascolta, Mandzukic una giornata sola gli hanno dato. Mandzukic sì, vabbè, Mandzukic ha ha solo parlato male, niente di più, ha parlato male all'arbitro e dunque il regolamento è che deve essere squalificato per una giornata, ma quando dà una gomitata così al coso, soprattutto dopo che è stato già ammonito e soprattutto per il fatto che è il capitano, allora sono due giornate, quelli non gli risponde nessuno, sacrosante. Oh, sono rientrato e buonasera, ciao Giulio. Ciao Natalino, ben entrato. La parte riprendi tu Natalino. Oh, beh, Natalino, sei rientrato e non fa vedi. C'è la mia moglie a grida. Falla gridare. Ma che non dici la verità che c'è la tua moglie con Mattarello? Sempre di Giulio la moglie. Vabbè, che la città di Santa Barbara, non lo so qui. Ho capito, pensavo che avesse anche mandato PC due giornate. Ma infatti lui l'ha fatto apposta, perché era già ammonito, ha fatto apposta per farsi buttare fuori, come mi ha detto mio fratello, perché il capitano della squadra, che poi non si capisce come mai è capitano della squadra, ne abbiamo già parlato, anche mio fratello non è d'accordo, è una vita milanista. Ed era già ammonito, mio fratello ha detto come mai da capitano, lui che deve dare l'esempio, ha fatto il secondo fallo per farsi buttare fuori per non giocare contro la Juventus, perché lui viene male a giocare contro la Juventus, mica lo fischiano forte, ma lo fischiano forte. Beh, sicuramente sì, lo fischieranno forte, perché anche se a Milano sempre gli juventini ci sono, i tifosi juventini ci sono, dunque lì tantissimi fischi prenderà, ma se è un professionista non dovrebbe fargli né caldo né freddo, perché un professionista pagato a fior di milioni come è pagato lui e come sono pagati questi giocatori, i fischi non dovrebbero, anzi dovrebbero secondo me avere carattere e giocare ancora con più agonismo. Io penso che dovrebbe essere così, quando mai sono di cuore tenero e si lasciano intimidire dai fischi della gente, allora si è proprio un blocco di un giusto. No, dimmi tu Higuain che hanno giocato Juventus Napoli, dimmi Eddo, se li prende i fischi, peggio per lui, capite? Peggio per lui, sono meritati i fischi che si deve prendere lui dai tifosi della Juve, capito? Perché i tifosi gli hanno dato tanto a lui, sempre. Eddo invece cos'è che ha dato ai tifosi? Una delusione totale, cazzo. Si è messo a zuffarsi nello spogliatoio nella partita più importante della Juventus e a creare un malumore, una cosa allucinante. Quindi, vabbè, comunque. È a Milano la partita, Milan-Juventus. Mi pare che fosse Juventus-Milan, non lo so. Vabbè, avanti Natali. Eia, sono qui che sto ascoltando le vostre opinioni calcistiche. Già la coce, prenda il Mattarello, che non la voglio parlare Natalino. Come? Signora Concetta, sto dicendo di prendere il Mattarello, che non ha voglia di parlare. No, non è che non ho voglia di parlare, chi è da Maravosi più forte di la mia, mi sorpassa. Già lo credo che ti sorpassa. Vabbè, dovete portare, mi stavo dicendo Claudio, la tappa per cercare di ripristinarla, ma non me l'hai portata stamattina. E cosa? Quel tubo che mi ha dato Claudio? E quel pezzo della Diamond? La tappa, ma cosa c'era da mettere a posto? Non me l'hai rigata, si è pigiata. No, che non ce l'avevo, era qua quella lì, ma non c'è problema per questo. Ok, va bene, già anche domani sono in bottega, per cui non ci sono problemi. No, pensavo che ti eri dimenticato appunto di togliere fuori, invece non l'hai proprio presa. Va bene, già sono in bottega anche domani. Io la mossa già ce l'ho con la salina, non vedo problemi. Se vedi va una cosa, o se ce la fanno la saldatura o cosa, cioè non ci sono problemi, io ho tutto. Sì, già lo so, e beh, messo apposta avete quello che stavate mettendo apposta. Me ne sono quasi andato subito, ho visto come ho spostato le macchine in fondo. Quel lavoro lì, adesso devo, siccome ho un paio di cose da verniciare che poi mi porto a casa, e poi butto via, intanto domani farò un altro viaggio. A proposito, se capita quando che vieni non ci sono, vuol dire già da solo la porta, da solo andata aperta, dunque la vetrina chiusa. Vuol dire che sono andato all'ecocentro a buttare Mondezza, capito? Mondezza tipo, non so, o ferraglia, tutte queste cose qua, dai, che sto indovinando, parlamenta, eccetera, capito? Perciò, aspettami che già è questione di qualche minuto, perché vado lì vicino a buttare ai cassoni dell'ecocentro. Va bene, vai. E la poi deve entrare il discorso mulatura. Tra mezz'ora aggiustare i buchi, pavimentare e vedere non è pochissimo mesi, no? Vabbè, dai, riprendi qua. Gappa. No, andata lì, quello lo devi andare da Giulio con quella lì. La mette in mossa, intanto toglie quei buloncini, la lubrifichi bene. Quella staffetta che c'è, con un pezzo di lamierino o qualcosa, se Giulio te la buca, la fai leggermente più lunga, capito? Si può ripristinare, tu la fai vedere a Giulio, della vasi, mezzisa, chissà, la vasi, eviti di metterli la fascetta in ferro, capito? Come rimangio la ginaglia in buttria, ma cavatemi in mano la bocca, io da voi piglio la pinza la ginaglia. No, oh, che mi sta infastidendo mia moglie. Ma a me mi sembra che sei tu che stai infastidendo a lì. Altro che, cosa mi dici tu qua? Io penso che sia il contrario. Non so, io vedo una e due non rispondi. Concetta, per favore, lascialo stare a Natalino, fallo parlare al baracchino. Hai compreso già da Giuditto? Se la butti da Giulio, che tu butta giù da Dio, quel pezzettino di lamierino che si è rotto là praticamente per chiudere, se Giulio ha un pezzettino di lamierino e fa il buco per essere più lungo per giuntare, capito, anziché mettere la fascetta. E adesso vediamo, là. Tanto bisogna vedere se entra quel tubo, è malato lui e forse non entra, perché è più stretto il buco della canna da pesca. Più stretto, più grosso sarà la base della canna da pesca, sarà più grosso allora. Va bene, se già troviamo lo stesso sistema, come fare? Esatto, lì. No, pari solo ti preoccupare. Non è quello il problema, no. Cazzi, se per quello si può entrare direttamente la canna da pesca, dentro la bobina addirittura, e poi se li riempie con coso con la schiuma poliuretanica e anda meno battesimi, non vedo problemi. Quello che conta è solamente la parte di sotto, perché poi ci vuole un pezzo di tubo di ferro, in modo che quando metti il collare, quando schiaccia per attaccarlo al cavo, non si deve staccare, no? Capito? Eia. Vabbè, vediamo come fare. Tra il bene e il male c'è di mezzo il mare. Avanti, non è a Puglia stasera, dai, è un po' stanco. No, adesso non è a Puglia. Signor tanto mi interrompi, Gita, cosa posso fare io? Una cosa, se sto facendo una cosa, non te lo dici, non lo vuoi pure ma cosa mi, Vieni qua. Io già visto sotto alla banca, no? Che ci avessi mi molli, mi ho dato messo lungato in mezzo all'anchi. Coricino Filippo, adesso ti manda Massimiliano che ti picchia. Ah babà, ma vedi, chi è nonno, vieni, chi è, che cosa c'è, ma un po' qui. Tutto meringhi. Filippo, mica c'è Massimiliano sotto con la macchina, mi. Cuocomani c'è. Senti. Sì, cuocomani. Adesso lui è. Mamma mia, papà, mi vediamo se gioca ricutta, mi vediamo se di diti. Ciao, Lu. Beh, cuocomani, buonasera. Ciao Luca! Ciao Luca! Ciao ragazzuoli! Oh, ma vedete conto, io sono. Forse mi con una stronzata, cercando un gommino. Oggi busciurardo lo zebetto, ma guardate che è un gommino che serve, ve lo spiego per che cosa. È di un telefonino, no? Che va messo nel coso della luce di prossimità, che sarebbe quella che tu quando puoi il telefono all'orecchio, il telefono si spegne, no? Quando tu lo sposti il telefono si riaccende. Questo molto qua rimaneva sempre spento. Mi scende di campo questo gommino, ma bussi, fai casa, ma c'è luci. Poi mangiamo un gommino, ma credetemi, oh, laggiù, mi avevo fatto tutto spostato con la scopa, niente, ho trovato adesso sopra il mobile. Quanto sei distratto, tu ti devi mettere su un piano bianco per lavorare, in modo che quando smonti tutti i pezzi saranno ben visibili, perché se ti metti su un piano che di colore un po' oscuro, a ciappare i pezzi da voi due, saltano con un zambudo vivo. Giulio, un gomito come dice sono costa, un gomito da niente mio, questo di plastica, dici in lupo di staccata qualsiasi lupo, volendo, vabbè, questo è fatto un po' a misura, sai, le sue misure, è rotondo, poi per male un pochettino più largo, così. Oh tu io, tu dici, cioè ti vai detto io ti vieni spedito, un pezzo di gomma. Perché tu ti devi procurare un pezzetto di cosa bianco, e lavori sul bianco, quando smonti qualsiasi cosa, anche oscura, gommino, qualsiasi vitina, eccetera, sul bianco si nota molto, ma molto meglio di essere un piano scuro, capito, Luca? È così che devi fare, quando si tratta di queste piccolezze così, perché mi rendo conto che ci sono delle vitine, delle micro vitine, e poi a trovarle viene un po' difficile. Vabbè, la vita è alla buona, ma comunque è sempre meglio avere un piano chiaro. E tu metti tutto, oppure ti prendi una scatoletta con tutte le basi di base e tutte le volte che il monti metti sempre lì dentro, che forse è la cosa migliore anche da fare, in modo che poi ti ritrovi tutto, capito? Giulio, lo so, stamattina ho la visita agli occhi, praticamente, vabbè non mi ricordo cosa mi ha detto, comunque è tipo una specie di infezione, non so, ho preso questo colliglio per fare questa cura, da lontano vedo benissimo, mi ha detto che sì, sono perfetto, vado al 100% da lontano, da vicino dovrei comprare un paio di occhiali più 1,5, però me l'ha consigliato dall'ottico, vanno bene anche quelli di farmacia, però dall'ottico, cioè se li prendo lì è molto meglio. Beh certo, Luca, dopo i 40 anni, tu hai 40 anni, basta, così comincia a diventare così che dopo i 40 anni da vicino la vita diminuisce, ovvio, no? Ma succede a tutti, mi noti solo a tutto il mondo, sia donne che uomini, per cui non è una cosa normale, Luca. La distanza vedi benissimo, lo so benissimo, questo sì. Però da vicino si comincia a distinguere un po' di meno, ma questo succede dai 40 anni in su, anzi qualcuno anche prima dei 40 anni. Va bene, facciamo girare, vai qua. Diventi presbite, Luca. Ma divento lesbico. Che sei lesbico lo sappiamo, presbite, la presbiopia dopo i 40 anni viene, quindi da vicino vedi di meno. Vabbè, c'è certo che non diventi cuocuomane. Ma lesbico sì che sei diventato però. Avanti, claro. Guarda che alla gioventù di oggi, non so come sei presbito diventa. Fatti da fare adesso perché sennò... Vabbè, già mi hai capito, eh. Ehi, vabbè, no, io non sono diventato lesbico, io sono diventato ipermetrope. Da lontano imbatto da una goccia allucinante. Vedo le mosche sotto l'albero, da vicino non vengo una matta, Giulio. Io ho due paia di occhiali al lavoro. Due, perché le letture non le vedo. E da vicino, capito? Da lontano sì, da vicino niente. E quindi c'ho due paia di occhiali, uno per lontano, uno per vicino. E vabbè, pazienza, però lui. Non è 40, non è quasi di sotto in più. Ma vedi posto 43, caro 40. Vabbè, se ne fai 43, no? Mi dice pesi qua tutti i giorni. E sono tanti. Stiamo già prendendo il volo. KK, avanti Natalie, riprendi. Quindi sei diventato anche tu lesbico? No, Burdighè è diventato. Ah, ho capito. Ma poi di più che diminuiscono, cominciano a diminuire le cartucce anche. Ah, è chissù, sì, pure la cartucciera si imbiuta, è chissù, Un baltano, un carriello è un Volpino, a te cosa ti ha detto Cocco, ma tu non siete buoni che su gommino, se no corra più lì, è un casino a cercare i gommini, puoi capigliare che ci gommini che pone nei rugommo. Cosa Natali? A Luca lo sai cosa gli succede? Dai 30 ai 40, qualche volta si incanta. Ehi, fa credere, ti vedo Luca, lasciare finire il telefonino, che lui sta lavorando, che c'è il laboratorio a casa, deve incassare, che siamo a fine settimana, vai Marto giù. Lasciamo lavorare tranquillo, perché se lo disagliamo noi poi appena un telefonino, e invece se lavora attentamente il lavoro lo fa bene. Insomma, se sei andato in giro lui Marco, chi è la pizzia? A Capino Star sei andato insieme ad Antonello, tu che l'hai sentito a PMR, cioè all'LPD o qua, cos'è che stavano combinando? Allora, Marco doveva andare a casa sua a programmarle un portatilino cinese con il cavetto USB. E poi erano in macchina e sono andati da Nicco allo circolo a farsi una birretta. Capito? Ecco, capito è nata lì perché Marco ha mangiato prima oggi. Così dice, sono a pancia piena, se bevo qualcosa non mi fa male. Avanti nella rega in tumbarella come te la farì. Addirittura. Non è possibile, vabbè. L'acqua con le bollicine è dalla testa. Lui era Natali. Tanto Natali, vedi. Oh, fa vedi. Mamma mia, mi ci fermo i venenti. Marco non beve, Marco anche la Coca-Cola le fa male così. Quindi basta civiglia, è andata di birra. E due già all'Ande e Caraibi. vabbè, allora peggio di me. Infatti questo quando uno non è abituato, pur ma già si sa regolare, Marco, non è un problema quello. che problemi ci sono? Se ti pensi tutto Antonello, lui ti accama così tu pensi Antonello. Ci quanto giuccia che è proprio una motocompa, lo chiamo io, per carità. Quanto non beve altro, non beve niente, solo birra, ma se ne visiano a due, per carità. Io se quando vado a mangiare la pizza non riesco a bene, a volte siamo in 5-6 e prendiamo una caraffa e ne bevo una tazza e due, perché mi gonfia, non riesco a bere, preferisco bere un bicchiere di vino o qualcosa del genere, giusto per accompagnare la pizza, e se no Eva, perché proprio non riesco a mangiare, capito? Ok, no, io proprio niente di niente, acqua e basta, acqua è anche naturale, prima per 30 anni e oltre ho bevuto acqua gassata, ma adesso ogni tanto qualche dolorino di calcoli, allora ho cambiato, acqua naturale già da un paio d'anni, per cui, e tra l'altro acqua anche di quella leggera, tipo acqua panna, e vabbè dai. E gli anni avanzano e i mali poi incominciano, il discorso è questo qua, e allora bisogna cercare di riservarsi in qualche maniera. Ma infatti fa male, no, beh io non bevo, non sono di quelli che se sono in compagnia, per carità tu sei proprio astemio, io astemio non lo sono, e se devo bere un bicchiere di birra o un bicchiere di vino me lo bevo, ma non fuori io proprio non tocco niente, nulla, né a casa né fuori, perché tanto non ho tempo di stare buttato al bar, e poi col lavoro che faccio, sei in macchina, guarda, ti vi una tazza di birra, beve, ma ti vado in un palloncino e tocca andarti in tram, e allora meglio niente, proprio estate a volte con il mio collega ci siamo fermati una bottiglia in due con una gazzosa, ce l'abbiamo fatta perché la 7 è talmente tanta che dire gazzosa la francese è buonissima, mi piace tantissimo, ti risetta proprio, capito? Ti risetta proprio. Ok, sì, beh certo. No, io no, nemmeno la birra, ti devo dire la verità, la birra addirittura, se io bevo un bicchiere di birra mi fa anche bruciare lo stomaco, per cui non ho niente, nemmeno la birra, nulla. Posso, ma un mezzo bicchiere no, un dito, ma verticale, un dito in orizzontale, a notare lo spumante è che sia dolcissimo, perché se è di quello secco non ne vuoi rimanere, come dire, ma veramente mezzo dito proprio, mezzo mignolo, con il cazzo però, in orizzontale, non dritto, no, capito? Questo a notare. Anche io sono così. A me si vedono, a voi non mi fate differenza. Adesso che io ce l'ho qua, ho di tutto, per cui dall'amaro a qualsiasi cuore, al vino, anche ho tutto, ma sono il bagaglio benedetti, qualcuno, che nemmeno i miei fratelli bevono, anche i miei fratelli sono così, per cui le cose qua durano tanto, perché non è che venne tutti lì ospiti da fuori che non facciano parte della famiglia, no? Che si può immaginare, ma ad ogni modo, tanto è vero, quando ad esempio quando mi regalano qualche bottiglia di spumante per dire nelle ricorrenze, nelle feste eccetera, e mia moglie lo usa per cucinare, solo per consumarlo, perché se no sarebbe addirittura da buttare, perché noi non lo consumiamo, lo usa mia moglie per cucinare la carne e certe cose, se ti piace, io qua. Sì, anch'io ho la dispensa piena, ci sono amari, ci sono whisky, c'è anche il Chivas, per quando viene qualcuno così, c'è il mirto, il limoncino, tutte le cose insomma che più o meno quando viene qualcuno offre, però io non li tocco, non li tocco, assolutamente. Nulla di nulla, io sono l'unico in famiglia che quando siamo riuniti a Natale non beve spumante, perché mi facilita il stomaco proprio, che sia dolce che sia secco, capite? Assolutamente niente, nulla, no, io se mangio una fetta di panettone, se c'è un goccio di vino bianco normale, mi bevo un goccio di vino bianco, e se no non bevo nulla, capite? No, mi fa bruciare il stomaco. Proprio brucio il stomaco, perché c'è il reflusso da cosa fa gel, quindi è un problema, una roba gasata, ecco perché non bevo manco birra, preferisco bere un bicchiere di vino rosso, perché anche quello bianco fa male per me, e quindi bevo un bicchiere di vino rosso mangiando, un bicchiere a pasto, a pranzo, un bicchiere a cena, bicchiere, oddio, bicchiere di guzzina, adesso va fuori, e la circolazione del sangue è sempre all'Ande Caraibi, vero Natalino? Yes! E già hai visto, siamo andati a mangiare la pizza assieme, e la birra io non la bevo, abbiamo preso una caraffetta di vino con Franco, e ci abbiamo bevuto il vino, perché anche Franco lo beve il vino con la pizza, lo metto quando andiamo da soli, lo beve, ed è meglio della birra, la birra non... Il Ciantonello la visi quanto leva, sei bidato lo vecchio. E poi devo dire che l'acqua fa anche male, per cui se ne può fare a meno, una cosa che il fisico umano non ha proprio nessuna necessità. Guarda, ieri mia figlia era dalle parti di Nuoro, aspetta Angela. O volta mi pare, insomma per questo di lavoro eccetera, no? E mi ha portato dei formaggi, ma formaggi però, mi ha portato un formaggio crema, ma era fini di mondo, ma buono, è da prendere col cucchiaio, cioè da leccarsi anche il cucchiaio, ma da fini di mondo, veramente dei buonissimi formaggi. È lì che è andata in un'azienda per questioni di lavoro, poi è andata e quando era lì c'erano addirittura l'altro, l'hanno messo un frigorifero di immenso, grandissimo, e questo qui è produttore di formaggi eccetera, questa persona, e me ne ha portato un po', ma è solo la fine del mondo quello qua. Formaggio Tantissimi moglieri, lei va matta per il formaggio. Adesso lunedì io sono a riposo e mi tocca andare a piazzare i segni. Capito? Mi tocca a me. Mi intese, cosa hai detto? Ho preso dei formaggi per piazzare i segni. non ce la fai a prenderlo. Che peso è? Cosa è? Un pezzo di formaggio? Ha detto lunedì sono a casa, ma ha detto giovedì, lunedì c'è piazza dei segni, un pezzo di formaggio non lo prendi. E io lo grido, capita, ci mancherebbe. Certo che lo puoi prendere, io lo grido, ci mancherebbe. Uno può fare mangiare, guarda, io ti posso garantire una cosa, o qua, mi posso trattenere di comprarmi, tanto per dire, un vestiario, però per mangiare non risparmio niente, nulla. Ah, io voglio essere sempre il decio. No, per me no, non si sfugge, non sono uno di quelli, lei dice, ma oggi cosa ho fatto? Pasta asciutta, nuove finitivi, pasta asciutta la cuccia, noi. Dopo la pasta asciutta tanto deve essere fatta come si deve, e poi ci vuole sempre il secondo, ci vuole, non deve mai mancare, è la frutta sempre. A me che mi manca l'umino non mi interessa proprio, però il mangiare no, è balle. No, ma neanche, guarda, io da quando lavoro in una zona badese, no, ho conosciuto uno, un viticoltore, che fa del vino buono, però non è forte, capito? E tu immaginati che ne compro per essere proprio per bere un bicchiere di vino buono, perché il vino o lo bevi buono, rosso, oppure io non ne compro al supermercato perché sono proprio sporcizia. Se compro un bidoncino di quello da 3 litri e mi dura più di una ghita, perché ti sto dicendo, ne bevo un bicchiere a pranzo e un bicchiere a cena, a meno che non ci sia mio genero, che anche lui è come te, non beve, vi dico Coca-Cola. Però quando è con me, un bicchiere se lo fa lui, quindi un bicchiere in più lui, un bicchiere in più io, e quindi va bene così. Ma se no io non bevo altro, nulla, niente, nulla. Niente, a me piace molto, il vino se è buono, però se sto mangiando, sto pranzando, capito? O in compagnia, se no io rasura, e prima, ui, quando ero più giovincello ne bevevo molto di più. Adesso basta, adesso sono finiti i giochi. Natali, riprendi un attimino con Giulio, che intanto mi preparo di sorrisette e vinti, che aiuto, fa vinta, dica che cosa. Ma me la vuoi salutare? No, eh? O faccio parlare con un muro? Vai, cuomane. E saluta Anna, già ti ha sentito, saluta. Ciao Anna, tutto bene, sì. Ma niente, sentite a Luca. Chi? Luca. Luca del Monte. E me? Ti ha detto tutto bene, ma ricoglionita sì. Ho sentito. Boh, saluta. Ciao Luca, tutto bene? Ciao Anna, tutto bene, la parola grossa. Tu, tutto bene? Aggiorni bene, aggiorni male, ma andiamo avanti, se no se ci fermiamo siamo perduti. Capite, da parte della categoria dei riguardi. Purtroppo è così, però ci vuoi fare. Interessante andare avanti, dai, non indietro. L'importante è che non ti venga il malumore e continui ad andare avanti, capito? Poi purtroppo la vita è fatta così, di alti e bassi, più bassi che alti. Oh, non fa la maluccata, saluto a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera signora, Giulio da questa parte. Vabbè, in effetti ha ragione. Giorni buoni e giorni meno buoni. Interessante tirare avanti sempre. Con sufficienza. Tutto lì, signora. Tu, avanti. Certo, bisogna andare avanti, se no non serve a niente deprimersi. La vita è bella, bisogna prenderla com'è. Brava, 10 e 9. Anna, indietro non puoi andare, magari andare avanti, poi vedi che non ti piace più, tornare indietro è impossibile, magari. Poi però se una macchina andare tu, quella con la vita. Hai ragione Lu, però cosa vuoi fare? Lo so che hai detto non si può andare avanti, magari andissimo avanti. Almeno, guarda, non ti dico molto, ma almeno di 10 anni, visto che sto invecchiando, quindi insomma, sono più nella fase di discesa che in quella di salita. Quindi, vabbè, pazienza. Ma potrebbe comprare un paio di batteri da fare la parata. Vabbè, interessante ci sia salute, da poi. Purtroppo io dico sempre, siamo di passaggio, lo dico che sono giovane, confrontavo che sono giovane, non mi sto dicendo che siete vecchi, però avete qualche anno in più, però lo penso anche io, anche se ho quasi 43 anni, siamo di passaggio, c'è un break, avanti. Io ci spero che tu già la guidi davvero, vi farà vita, eh? 88 anni, va bene, io vi chiedo un attimo di quel rix che mi preparo perché devo portare il cane, quindi riprendete voi la ruota, ciao José. C'è Giulio, non so se ti sentono, ma qua devi benissimo, è tutta la greffa, ok, mi allontano un attimo che mi preparo, poi rientro, ok, che devo portare il cane. Stava parlando Luca? No, è Giuseppe che è entrato a salutare, riprendete con qua con Natalina eccetera, là, che mi preparo, se no si fa tardi e poi è un casino, che mi preparo, mi metto anche il giubbotto, poi è un freddo. Lì infatti nato, copriti che è meglio, che bella l'influenza in giro, copriti. Sì, buona passeggiata qua, dai, ci sentiamo eventualmente fra un 4 ore, 20 minuti se fai in tempo a rientrare, insomma che io abbandoni il microfono. Sì, io ho Luca, ma è così, la vita è così. D'altronde, senta Luca che stavamo parlando poc'anzi di questione di bevanda, vino eccetera, no? Io avrei anche la possibilità di avere il vino gratis, ma di quello buono, perché ho dei parenti che sono produttori di vino. Tu pensa che un giorno mi avevo fatto un lavoro, questo parente, no? Io l'ho portato, quando sono andato là, sai chi c'era in questa casa? C'era Montenegro, Guido di Diego Severetta, c'era i due fratelli Montenegro, c'erano tutti e due, comprandosi il vino lì da questo parente. E gli ho detto, ma a lei, siccome ci conosciamo, a lei dice, con tutto il vino che ha in negozio, viene qua a comprarlo. Ah, ma no, mi dispiace, quello che ho in negozio è per i clienti, io vengo qua a comprare il vino perché è buono questo. Compri Luca. Ma Luca non riprende, a me da se lo sabbia che la buccaria che sta che vieni a Edo. Infatti, io ho visto i bari clienti che su uno è vino. E stavo comprando vino a questo mio parente, che poi non è proprio mio parente, in effetti è un parente acquisito, è un cugino di mia moglie, ed è produttore del vino, per cui pensa che lo dà anche alla cantina, lo dà, perché ne fa tanto, ne dà. Però se uno che lo vuole in privato glielo prende, ma è un vino a vino o natalizio, anche costa abbastanza, so che costa. E la Multinetto comprende sul vino, ma è personalmente. Beh, caro Grillo, chi su vino, chi su va di Tre Monti, facciamo il vino noi, andavamo a comprare la camion, quell'uva lì, e lo faceva mio padre col compare, no? Ma vino buono così è forte, poi marasuto. Un vino mi sembra roba di 15-16 gradi, dice che esce con quell'uva lì, che puoi immaginare un vino pesante, buono, ma devi stare attento, che se ne bevi più di più tanto, si può capire. Ehi, già lo so, è pittina, io lo so, 16 gradi, un amantissimi, io infatti, e una volta l'avevano presa, lo sai da dove? Sotto banco gliel'avevano dato un camion da Maristella, a Giusto, qui c'è non esibe, giusto, a me. A Rusai che si do, perché lì hanno acquesa nei civini, ma si rubava anche i carte poche la volte, l'alcol sentivo mi. Se quando scendeva questo vino, lo tenevo quel vino bianco di Maristella, mamma mia! Io credo, guarda c'è un mio nipote, sposato con una mia nipote, lì, prima dell'ingresso di Sorso, abita lì di casa, no? 2-3 km prima di entrare al Sorso, e lui ha una campagna, due campagne veramente, e tutti i giorni se lo fa lui il vino, e il bicchiere di vino se lo beve quando è a pranzo, tranquillamente, anche a cena. Se lo fa lui, se lo fa, ma tutte quelle uve che nascono in quei terreni lì sono micidiali, sono dei vini straordinari, vengono fuori o natalini, perché l'uva è buona, è proprio la razza proprio per quel tipo di produzione. E poi mettevano tanti tipi d'uva, lo Sabbiani va compreso, hai scelto vino, mamma mia, che non andava neanche bene per mangiare di quanto era forte, un rosolio era. Sì, lo so, infatti, disse questo mio nipote, un certo Antonello, che è un piccolo impresario, là, e dunque, che poi tra l'altro l'anno scorso è stato anche controllato, perché questa campagna ha due case, una vicino all'altro, ed era in una casa, in una di queste case, a un certo momento aveva... E si affaccia, esce fuori e ti vedi i fiamme, ma fiamme, se viene incendiata la casa, ragazzi, tutto quanto ha bruciato, tutto indistintamente, ha dovuto comprare tutto. E il motivo da cosa è successo questo incendio? Una presa dove c'era attaccato il frigorifero o Natalia, ha scaldato e si è accesa la casa, Loro nell'altra casa a distanza di 100 metri, non si sono accorti di niente perché erano dentro, che stavano cenando. Si è bruciata la casa completamente, tutto, non si è salvato niente, pure i vagoni, gli anni, tutto. Quando succede così, se mi davo pure a casa al vero. Infatti, ha dovuto rifare tutto l'appartamento, tutto da capo, porte, finestre, camera da letto, cucina, soggiorno, tutto altro, ha dovuto fare tutto da capo. E oltre al fatto che ha dovuto anche ristrutturare di nuovo l'appartamento, perché pensa che in quella casa lì aveva dei travoni anche a solaio, sai, di quei travi ribaltati, che a loro piacciono molto queste cose, a me non mi piace, la verità, attaccati a solaio, no? Quindi si inizia da bruciare tutto, i muri lo stesso, ha dovuto fasciare tutto l'intonaco, ha dovuto rifare. Fortunatamente lui ha una piccola impresa di muratori, almeno se non altro si è un po' agevolato nelle spese della ristrutturazione dei muri, perché se no guai. Infatti, almeno la manodopera ce l'aveva. Ma ha speso lo stesso per il materiale, ma la sorte. Il materiale è anche le giornate degli operai, là dove gli bagano la testa, ma travagliata. Perché anche se sono gli operai suoi, però uno è da volare a casa sua senza incassare niente, l'altro è da volare a casa di un cliente, gli incassare no. È stato fortunato, questo l'anno scorso gli è successo, purtroppo, cose che nella vita succedono, ma comunque. Si è ripreso, già stanno bene, perché lui è un piccolo impresario, la moglie ha un salone da parrocchiera, per cui già se la cavano benino, non è un problema, però intanto sono spese di parecchi centinaia di biglietti di euro. Io lo so, sono cose che succedono. E a Giumano non me lo incendia, mezzia. A capi arriva vicino a me, l'ampende si la benzina, niru coso, niru caminetto, fa a sindillo. E io lo sa più fa, e da pigliata a Giumano incendia la casa, la buccia, tutti i vacciniti, quando sono rientrato erano tutti vacciniti. Meno male che la notte il ragazzo, che ha dei bambini piccoli anche, no? Meno male che i bambini erano ancora con loro, perché era la casa dove andavano poi a dormire, cioè loro erano nella seconda casa dove praticamente si fanno le cene, si fanno queste cose così, no? Dunque i bambini erano ancora con loro, perché non era tardissimo, però alle volte i bambini li metti a letto presto e dormivano loro nell'altra casa, meno male, almeno quello, se no avrebbe ammazzato anche i bambini. Infatti, ma come ti è successo a bruciarsi da cosa? O era di chi ti brisi che erano sottodimensionate? Ma io dico quello, è un disgraziato di elettricista che gli aveva fatto l'impianto, che poi tra l'altro la casa è nuova, mino, non ti dirige alla casa di 50 anni, ma no, è una casa che avrà, cosa avrà? Avrà 15 anni, esagerando, 18 anni avanti, poi per esagerare, e evidentemente gli avevano fatto l'impianto che non era congeniale per certe cose, addirittura bruciarsi il frigorifero, si può immaginare. lui se avesse anche la macchinetta del caffè lì, non lo so, probabilmente c'era anche quella attaccata. Evidentemente c'era questo adattatore, magari non era perfetto, perché non lo sapevano mettere l'adattatore, la spina va attaccata direttamente alla presa, e la presa deve essere sempre da 16 ampere, e i fili devono essere sempre consistenti da 2,5, non da 1,5, non ti va tanto niente, perché da 1,5 bastano solo per le calate agli interruttori, lì va bene, ma se c'è una presa e qualsiasi altro impianto, qualsiasi altro punto luce, deve essere sempre da 2,5 che il cavo, così almeno non scalda e allo stesso tempo non si consuma neanche di meno il contatore, capito Natalia? Io l'ho tutto rifatto qua l'impianto, che un disgraziato gli aveva fatto qua, meglio la morte giù. Manco male il ministro Gabizzardo, a chi si noi no che saltava tutto ma te. Per dire, bisogna stare molto attivi, E pensa quando 4-5 giorni fa mi ha chiamato mia madre, giù vieni che non mi funziona la lavatrice. Sono andato e va via una pelo lunga fatta da me padrino che non ne comprendo l'accidente di elettricità. Me l'ha fatta tuo padrino, si chiama un permettissimo di fare niente. E allora ho comprato il filo, la presa volante e gliel'ho fatta io, perché la presa dove c'è la lavatrice è un po' distante e gli ho fatto una prolunga un mese di zocca e ieri gliel'ho portata, perché se avevo fatto una presa di chi se puoi immaginare che poi oggi sono da 10, ma mica addirittura da 6 ampere, quella è un'antica proprio di una volta. E poi se quando attaccato la lavatrice, capita, quando toccato la presa era bollente, ma non si permetteva più. Va bene, però questa è casa sua, ha fatto un impianto, ha segnato la luce, sta buttando in funzione la lavatrice, si può immaginare. Ma veramente lì, non sto scherzando, perché era attaccato, dove c'era l'interruttore c'era anche una presa, e lui aveva attaccato la lavatrice proprio lì. E per accendere la luce, la notte si butta in funzione la lavatrice. Quindi mi dice, no, che una testa viene fatto un macello, avevano fatto un macello. Ma io non so come facciano a permettersi quando non sono del mestiere. No, uno si chiede, forse sono dovuto andare io e gliel'ho messo a posto, gli ho corretto l'impianto. C'era la posto meglio, ho detto, ma se tutto il resto ti ho fatto io, tutta la tua parte ho fatto io, parlo di turbarmi. Ma te ne rendi conto che venderanno, te ne rendi conto? Non esiste il vasia io come ti ho fatto la parte del piatto, no? Lui aveva aggiunto questa presa e questa lampada non so per motivo, voi che non ce ne ha nemmeno bisogno. Quando accendeva la luce dallo specchio, perché la luce centrale c'era, lì sembrava il vasio e tutto normale, ha voluto la luce di piccio e così almeno quando un vostro bambino aveva il gomiglio, e chi non lo vede, vuole la pagina violata e la vede come a te, lui non la fa, e dopo appunto la luce è stata la specchiera, no? del bagno. Accendeva la luce, c'è la specchiera, c'è pure appunto la matrice. Ma dimmi tu, cazzo, qua ci ha il fuoco da rubiru della cosa, da un capo dell'antenna TV. Addirittura, dall'antenna TV ci ha la cosa, lo fumo. Lo fuoco, ha già visto lo fuoco, i scintilli proprio, mi giù, non so come funene, no, che cazzo era abbassata tutto. Ma la cosa, come ti ha fatto? Ha forse dall'alimentatore, dall'amplificatore, sarà stato riso. Perché da un capo TV non ne buscite di corrente. Le cose sono due. O se era danneggiato che poi nel manco lo condensatore dell'ingresso che viene attaccato, si attacca alla televisione, oppure era l'alimentatore dell'amplificatore, dell'antenna, che lì si era andato in corto, sarà attaccato malissimo. Cosa? E la giubilante non ha trattato tutto, addirittura nei contatori invece da sì, il cavo grosso che vivo, tira una brulunga attaccata io giù il cavo grosso e non faccio fatto caso quando un raggio di montaggio che era fatto da una brulunga con fili fini fini fini attaccati direttamente al contatore mamma mia, non è possibile, non è possibile. Io dico Guido, quando un uomo sa fare queste cose, se non si vede manco per mettere a buffo, manca a buffonetti, ma che guardate lo soffoletta a me, come vedete che lo soffoletta, tu pensa che una volta, e chi se lo conosce buon dumi, questa zia, questa bottega, questa zia, un sesto camionista, si chiama Giovanni Viuri, che è ancora vivo, grazie a Dio. Quando tu stai in via Petromica, sicuramente l'hai conosciuto, ha detto Giovanni Viuri, camionista, proprio la voce bottega stava stata bene sopra, no? E ti abbiamo comprato la televisione nuova, e mi fai, mi chiuso la bottega giù, a me la sintonizzeggio la televisione, che non la ci comprata nuova, non le comprendo la cerette. E tu sì, sono andato a casa sua, e ti pigliava la corrente dalla spina di Lulizzo, dalla presa di Lulizzo, no? Ti abbiamo fatto una prolunga, ti abbiamo fatto, a portarla in strangolo, a luci, a Lulizzo. Beh, ma come te mai l'ha fatta la prolunga? La che non venne presa a nome. E sa vedere che sta prolunga l'ha fatta. Ha preso il tiro da io, tiro la prolunga, non è come tira questa prolunga. Lì. Quando i pini, vedo la pina, una parte la pina l'altra, anche i pugni, la pina era presa, volante, vedo la pina e la pina. E viene la lampada in terra, così che sta pina. Battava di poco poco, un pulo la venne in terra, e si era via butta, un coso di vestito di leva e si fulminava dentro, ma che vedo la pina in corrente, ma te ne immaginate che la stecca, ma se la stecca, ma cosa ha fatto? C'è chi non andava così, andava così, ma non è vero, ma non è un caso, si potesse fare la scelta che tocca un po' via la giura, no? Si c'era si vuota il vestito di leva, e quindi leva sotto la televisione, e potesse fare un po' di mezzo, una parte lo fulminava, se non manco se una pizza, ma te ne immaginate? Oh, i fini minira. I nocchi, il piatto di massa a terra, nisba, non vera nulla, si sono cosenda giù dove tu va, tutto a capo. Hai fatto bene, sta lì, hai fatto bene a fare tutto a capo, ma come non si sa mai, sai, pesamente in questi casi di stata in centro, così, che sta la cantante che ho fatto le piante, tu hai fatto bene, fatti tutto a capo. Allora così è tranquillo, fa carità, raga. O se un poeta con la corrente elettrica, mamma mia. Fate la gita, signor Giovanni. Signor Giovanni, potrei farà da Nantano Cambio, che è il camionista lì, no? Farà che si inizia da Nantano Cambio, è meglio che non fosse mai niente a Baglia. Non si permette a più fare una cosa del genere, ma ha fatto una cosa, un me pericolosa. Se te lo presenti, anche che pugni la spina, che è stato lunga, allora ammazzi, no? E la campata vuole presa, l'ha presa volante. No, è da posto, la spina non passa una spina all'altra. Perché di lui, dei due pini, è il corrente, ovvio, no? Oh, io no che ci posso salvare vita, ci posso tutto. E l'ho messo anche a Rita, l'amica di mia moglie, che non ne aveva, cazzo, ma io non lo so. Hai fatto bene, e salva vita ogni almeno una volta al mese vuole schiacciato per vedere se scatta. Se scatta, quando schiaccia col pulsante che c'è, deve scattare da solo. Allora vuol dire che è sempre efficiente, efficace. Almeno una volta al mese bisogna controllarlo. Ma voi, vabbè, sono incidenti che possono anche succedere, però è un po' come te che dite. Un po' come te che dite, capita, che si pone lì con l'asciugacappelli in bagno, a dentro la vasca da bagno si piglia l'asciugacappelli e ci state bene. Ma non è mai Diego si guarda, boh, non è possibile. E gente ignorante, Giulio. È gente ignorante ed è molte volte fanno delle cose pericolose e ci rimettono pure la pelle. Se gli va male ci rimettono la pelle secondo cosa fanno. Infatti, quando uno è dentro la vasca da bagno non deve toccare strumenti elettrici, ci mancherebbe altro, capita. Stavo per tanta niente che la volte, non faccio niente, ma che ancora non è successo niente, però sta attento se succede qualche cosa, se non arriverà la buca, è buca niente, dici. E infatti, io le prolunghe a mia moglie gliele ho fatte, ma con cognizione di causa. perché se gli serve una prolunga per qualche cosa, c'ha la prolunga fatta bene. Beh certo, deve essere così, la prolunga va fatta bene, con le spine a 16 ampere e con capo di sezione grossa, non mai sottile, anche se non è proprio diciamo molto ma molto flessibile come magari è un capo sottile, però è sicuro, almeno è sicura la cosa, la prolunga, gli alluvioni, ci mancherebbe altro. E collegare sempre il filo di mezza terra, sempre. Non perché funziona a 220 e non ci deve mettere sempre nella prolunga un filo di mezza terra, perché negli strumenti, nella lavatrice, nello scaldabagno, nel macinino, in tutte le altre cose c'è sempre la massa terra in tutti gli utilizzatori. Per cui se l'impianto è fatto così, con la massa terra è molto ma molto importante. Sono rientrato e io qua e io ho grido già e no che non ha preso la massa terra collegata tutto cazzo e no che non c'era nulla, non c'era, guarda un macello, così era anche quello di Rita, quello dell'amica di mia moglie, io l'ho messo io il salvavita che non ne aveva. Hai fatto bene salvavita sempre regolato a 15 ampere, in modo che scatti, non a 25, no, a 15 ampere va sempre regolato, in modo che sia di facile scatto in caso di incidente, non sa mai, in caso di corrente. Sì. Va bene, a quanto sembra gioca Bernardeschi qua, gioca stanotte, Cesni, ho letto, Barzagli, Rugani, Alessandro sembra che c'è, adesso vediamo se è confermata quella formazione, saremo a vedere stanotte cosa combinano, speriamo bene, dipende qua. Sì, speriamo bene, sì, io adesso metto il pigiama pesante, ma che voglio un letto. Ho detto giù, no, il mio l'elettricista quando mi ha fatto l'impianto nuovo qua, perché il fumi aveva disintegrato tutto, me l'ha regolato il salvavita qua della sala radio a 18 me l'ha messo. Sì, anche 18 va bene, ma di solito si regola a 15 ampere, capito? Perché deve avere una tensione bassissima, o meglio un amperaggio bassissimo, non una tensione, un amperaggio bassissimo deve avere, quando in caso di contatto, sai, alle volte una lavatrice, una cosa, quando tocchi per la scossa deve scattare, e se è regolato sul porto, chiaramente non può scattare. Sì, va bene lo stesso, 18 va bene lo stesso, non ci sono dubbi. Va bene. Che ne so, ma se è me lo dici. Marco non è rientrato, boh, ciao me. Chiama l'82, chiedo un livello a 4 zampe di vera, va, insieme a Antonello. E Giubaretti, cosa vuoi ti dire a giù? Pittina, era quell'amica di mia moglie, ho detto ogni mese tu schiaccia il tasto giallo per vedere se scatta. Una volta al mese è prudente controllare sempre salvavita, perché salvavita ti può bloccare, allora almeno una volta al mese non costa niente, apri lo sportellino dove c'è il contattore, schiacci il tastino e il salvavita scatta, se scatta vuol dire che è sempre efficiente. Anche se è nuovo, bisogna sempre una volta al mese fare quella prova per essere tranquilli. Riprendi qua. Ma ietemelo pure andare, cominciamo. Ma c'è qualcuno che vuole entrare, chi è? Posso, dai, io vi saluto che vado, ho finito di fare quello che dovevo fare, ho risolto e buona cena a voi, ciao, alla prossima. Ciao Lugarie, ciao Vale, avanti Giulio. Ok, ciao Luca, salutoni, ben entrato almeno per salutarci, dai, ci sentiamo alle prossime, ma fate sentire però, non essere troppo assente. Ok, ciao Giulio, avanti, mi ascolti? Sì, c'è Natalino che adesso te lo mando avanti. Sì, vabbè, sono con 10. Con 10 sto uscendo, Valì, per cui è contenta, se dai. No, non voglio forzarlo troppo. Avanti Natalino per Valerio. Ciao Valì. Ti ho sentito, che stava parlando mia moglie ed è un macello qua. Ti ascolto, Valì, non c'è problema. L'importante è che mi ascolti tu. Ciao Valì, piacere averti ascoltato. Era un po' di giorni che non ti sentivo. Buona cena, buon tutto. Alle prossime, hai visto Natalì, 2 watt in più gli hai dato, 2 watt in più, non sono niente, adesso aspetti un'altra settimana, se tutto è tranquillo e sereno gli dai altri 2 watt in più, sempre a 2 watt in più, capito mi hai a zio Claudio? Ciao Valeria, alle prossime, un abbraccio, vai Natalì, ora Concetta, lascialo stare, mamma di Durchi. Intanto io saluto Valeria, ciao Valeria, grazie per essere entrato a salutare, ci sentiamo alle prossime, siamo sempre qua. Avanti Natalì, non fare il mandrigo stasera. Ciao Valeria, alle prossime, ben sentito. Ciao Valeria, Natalì non fa mandrigo stasera. Oia, chissà cosa sta combinando, lui sta andando a raccontare la moglie, ma mi sa che è lui, va bene, siamo di nuovo a Maria, le prossime, vai qua. Ciao. Vediamo, non c'è nessuno sotto, ok, ciao di nuovo, vale alle prossime, dai. Saluto anche Giuseppe che è in ascolto, lui a quest'ora disturba la TV della nipote. Ok, hai visto Natalì? 2 watt in più, andiamo già in trenda, piano piano, 2 watt oggi, fra una ghieda li dai altri 2 watt, capito? E se tutto rimane tranquillo, quel filtro è micidiale, capito? È micidiale, se ne stiamo in tassa, 2 watt, 2 watt ti fanno la differenza, capito? Già va bene. Ok, riprendi Tattalino, riprendi. Eh no, che sono 3 watt, 5 watt c'ho adesso. Se tutto va bene, che non viene nessuno a protestare, lo lascio 5 watt in modo che mi sentano. Esatto, Barossi, fra una ghieta, desidini, c'è uno da detenuta, tu dagli un altro watt in più, da 5 rubocchi a 6, capito? E un watt in più ti dà sempre più coraggio, no? Alla fine sei a posto, se niente a portarlo al massimo, va bene 5, 6 watt, vedi? Io con Giulio stiamo usando il capo, anch'io ce l'ho 10 watt, va bene, perché io sotto i 10 non lo metto questo, capito? Perché non va bene, non va bene. Mimì, hai te, rientra in diciamo, eh sì. Natalì, anch'io 10 watt sto usando, per cui va bene così. Sì, ma io ti sento bene, mi Natalì, mi ti sento Santiago nuovo, pieno, proprio bene, bene, e modulato anche 9,5, per cui va bene, non ci sono problemi. Poi, se arrivi a Ravero, va bene così, tieni così e va bene, Natalì. Va bene, Marco, vi saluto a tutti, è rientrato adesso, è arrivato adesso a casa accompagnato Antonello, se ce la fa adesso entra in radio, vai. Ok, sì, giù, 10 watt, 10 watt, 10 watt, perché di meno non lo metto io, così mi ha detto Bianconi, non stare sotto 10 watt in AM, perché la radio non va bene, non lavora l'AI vicino, lavora il microprocessore, capito? A meno che non la usi normalmente col microfono normale, in modo che la radio non spinga senza il processore, allora puoi tenere anche a 5 watt, a tipo baracchino. Se voglio una radio del genere la uso a baracchino, ma baracchino ma tengo un galaxy e tratto il baracchino. Va bene, va bene, ragazzi, va benissimo, con 10 watt c'è un segnale per cui va benissimo qua. No, non ho problemi, tu considera l'antenna come ce l'ho messa in ripassa, e se l'hanno messo al posto suo, al posto originale, ti supera i 9,20 suppongo, perché tu sei già quasi 9,20, qua così, con l'antenna mia bassa, ti puoi immaginare, per cui va bene, vedo l'abbondanza, buba i buchi, sento benissimo anche Natalino, sentivo benissimo anche a Valerio, Valerio mi arriva intorno ai 5-6 da Alghero, ma lo sentivo benissimo, nessun problema, per cui va bene, altro che non è il caso di aumentare, di forzare troppo la radio. Va bene così qua. No, no, no, ma la grande, 10 watt va benissimo, anche 4,30 ce l'ho 10 watt, capito? No, non ne ho problemi, io già c'ho una buona zona, quindi 10 watt, prima lo grattavo sempre a 40, 50, 10 watt, vabbè. Sì, anche tu sei 9,20 Giulio. 9.20 pieno pieno, con picchi positivi addirittura, quindi va bene. E 9.20 è natalino adesso, prima era 9.10 con picchi a 9.15, adesso è 9.20 pieno, natalino. Proprio pieno, pieno, pieno, senza niente, segnale stabile, perfetto. Capito, 9.20, un pisatena attaccato alla gabicciuria, lì se si riesce... In primavera però Natalì è tempo bello, non ci sia giornata di vento perché è un lavoraccio. Primavera lavoreremo, aggiungiamo un altro tubo da almeno 3 metri, bello robusto, e te la dovremmo attaccare, capito? E continui a usare questi filtri che stai usando. E vedi che i segnali diciamo dalla via rotti, perché allora l'antenna è radia meglio, è più libera, troppo attaccata alla mantovana lì adesso, però stai andando benissimo, ti difendi bene, ti difendi molto bene, molto, molto, va bene, riprendi Natalì, ciao la Gio, lotto, adesso che tra poco comincia il Gran Premio. Cava cava, via. Giù, ma ti arrivo nell'altra? Prova a parlare, io ce l'ho acceso, ho LPD, prova, ce l'ho acceso, prova, non ti sento, non ti sento Natalino, non so se stai parlando, se no con l'antennino burba e chi vivi, il problema non me ne so. Non mi senti, mi dovresti sentire, ma dentro casa col gommino magari non ti arrivo. Beh, il motivo è proprio per quello, Natalino. Se non facciamo l'antennino, tipo quella che ci ha fatto vedere stamattina, ma la facciamo bene, quello lì è solo un prototipo. Tu pensa che quella che ci ha fatto vedere stamattina l'avevo fatta qua a casa, così in una serata che stavo parlando sempre a baracchino, tra una chiacchiera e l'altra, l'avevo fatta quella, e l'avevo attaccata sul portatilino, no? E mi sentivo benissimo, Claudio, da dentro casa, da qui, si può immaginare. Ora, se tu la fai e ci metti una stina a bandiera e la metti attaccata al tubo, anche se non è arrivato in punta, tanto quella non è fatta di interferenza, e va benissimo, Già lo so. Tu dovresti metterne una fuori, piccolina. Io devo essere sincero, non ne ho bisogno, perché quando sono lì al centro del letto qua sono in una posizione ideale. Se mi sposto magari anche di un solo metro, allora incomincio ad avere dei problemini. Poi al limite, se è per necessario, io l'antenna ce l'ho, però l'antenna della V e basta, non è della U, è della V, che la uso per ascoltare il ricevitore. Ho capito. Comunque non è un problema, è un antennino che lo fermo. Anche per dimostrare a una certa persona che non è già passato due delle antenne. A chi si era convinto che abbiamo l'antenna, Edo. Avanti, qua. Vabbè, lì quella essendo una frequenza più bassa, Natalì, e quell'antenna che c'hai per il PMR 9 zona, lì io usavo già più attaccata a Rubaro, una 50, una 30, e allora si è l'Ande Caraibi, capito? Perché io ce l'ho nella finestra, però è 430, 440 quella che ho io, capito? Risuonava meno in PMR, ma risuona benissimo alla perfezione in LPD. Bene, è una buona antenna quella, è un metro e qualcosa in acciaio, ma non mando UHF, non ne vado nemmeno di chi si intende. L'avevo trovata, non mi metto in manco dopo, mi sembrava antenna, in mansarda, chissà che me l'ha lavorata, forse me l'ha lavorata a Gavino, sì, forse me l'ha lavorata a Gavino, ci l'avevo lavorata come antenna di 27, di è piena di stazionari, è Gadenoca, è un'antenna UHF. Va bene, funziona molto bene, l'acciaio ce l'ho nella finestra, all'angolo della finestra con una piastra in ferro, proprio nel marmo, mi Natalì, ho messo una piastra in ferro da 20x20, a base magnetica, pum, attaccata in chimica, ed è una bomba, c'ha zero di stazionati, e risuona, va bene però, capito? Va bene, riprendi giù. Ok, sì, riprendo. perché oggi siamo di pizza, dunque, anziché di giovedì, che domani siamo oggi di mercoledì, perché mio genero domani lavora, è di turno, sta di roba macita, no? Per cui è di turno e allora no, domani sera non ci può essere qua, però c'è oggi. Perciò, arrivato a questo punto, vi saluto, tanto sta per arrivare lui adesso, queste ore di 5 minuti o di più. Intanto sicuramente mia moglie avrà già preparato la tavola per apparecchiata, se è stato così, per cui vi saluto là. Ci sentiamo domani qua, alle prossime, ciao qua, grazie per la chiacchieratina, a domani, dai. Ciao Natali, a domani, grazie a te, ti ripeto, sei punti con la tappa, domani già sono in motela, perciò vedi un po' tu, se hai gara, o se hai tempo, per meglio dire, per essere più esatti, dai. E sono in bottega, sempre continuando a fare un po' di pulizia, domani butto un po' di vuoto, un po' di rottame, che sono cose buone, ma intanto non è entrato vivo e da me ne voglio. Tu pensa che ho nata lì una scatola dove ci saranno all'incirca 120-130 serrature, se non anche di più, e sono serrature da infilare, però sono tutte serrature con una abboccatura da 3,5. Cosa significa? Significa che il foro dove entra la chiave dal bordo della serratura è 3,5 e non vanno bene per le porte che si fanno oggi, si andavano bene e vanno bene per le porte finestre, tu immagini una porta finestra, allora si vanno bene, quindi la roba di 120 si rifrisci con chiave, con l'incontro sarebbe la placchetta da mettere a parte, domani quindi si butta tutte le rifrisci, sono ancora incartate, mai aperte, capito la tal- io ho capito. Ah beh, se capita domani già ci faccio un salto. Ti saluto, buon proseguo, alle prossime giù. Ok, ciao Natalia, alle prossime, salutoni di nuovo, saluti in casa. Ciao qua, alle prossime, buonanotte, buona cena quando lo farete e buona partita. Adesso vado a cenare così già incominciamo a scaldare la televisione. Ciao qua, riprendi. Ehi, già andato giù, e poi dalla prossima settimana ci sentiremo anche di mattina, magari ci vediamo, se sei in bottega, passo a prendere un caffè, perché io da lunedì, finita metà di novembre, giorno in ferie, e me le godo tutte, se il tempo rimane così, gioco sempre in giro, non gioco a casa, almeno la mattina, manco per l'antecamera e basta, vai, che apparecchiata la tavola, ci sono due olivette, già un pezzettino di formaggio. Ciao, buonanotte, buona cena, buon tutto, saluti a casa, ciao giù. Ciao qua, guarda, me l'ha portata ieri dalla parte del duo, di Nuoro, me l'ha portata ieri mia figlia che è andata lì per lavoro, ha portato certi formaggi, non te ne dico niente io qua. Addirittura un formaggio crema che si mangia con cucchiaio, o se te lo vuoi spalmare sulla fianata o sul pane carasau, a poco vuoi, mamma mia, c'è dalle casse anche il cucchiaino. Babù, vi saluto di nuovo, ciao, buonanotte a tutti, va. Ciao giù, ehi, hanno piazzato le segni lui, ma vedi c'è ragazzo che sono reso, il mamma Iara che c'è formaggio buono lo stesso, ciao giù, buonanotte, vai Natali. Ehi, ciao giù, ci sentiamo alle prossime, Marco chissà che fine ha fatto. Buonasera. Mamma mia, cotto è me Natali. Rovinati siamo. Mancherebbe, però non Ramacciotti. Comunque devo dire che tra i due, Ramacciotti a Verna, la Verna era più corposo, più tutto. Ramacciotti mi è sembrato un po' piatto, poco rotondo, poco tutto. Buonasera a tutti. Un po' piatto, bella questa definizione. Quindi hai assaggiato sia Ramacciotti che la Verna, va bene. No, noi ancora un pochino, non come ieri, perché tanto la cena non è pronta, però alle 8:30 io chiudo, perché c'è la mercoledì sportivo, oggi ci sono tutte le squadre in campo, mi guardo un po' di TV, e poi oggi a nanna presto, perché domani mi legge Bisari Zinco ancora tutta questa settimana. Vai Natali. Cappa. Io adesso vi saluto, lo stesso che è pronto la cena qua. Chicchio Marco venne quando si musa a Rendi, boh, io non lo so. Vabbè, oggi era un'eccezione, dai. Caspettina, mia moglie è incazzata perché non gli do conto, perché parlo con voi. E c'ha ragione tua moglie. C'ha ragione pure, boh, siamo rovinati. Ah, finalmente a casa. Qua stanno facendo lavori sotto casa, proprio sotto, quindi non si può mettere la macchina, l'ho messa sopra. Ma va a voglia, tutto illuminato lì. Bene, bene, bene. Così vediamo se riesco a programmare questa radio. E beh, Marco lì, cosa te le hai portate a casa? Io sono due Baofeng 888, no? Che sono senza display. E mi ha detto di fargli 8 canali PMR e 8 LPD. E boh, niente svizi e stravizi, semplice semplice. Speriamo che non dia problemi il computer, devo aggiornargli anche i driver per il cavetto, USB, ecco, perché io col portatile, col computer portatile non riuscivo a nemmeno a programmare il V5R. Invece poi ho scoperto che si poteva programmare a mano, semplicemente, e allora l'ho fatto a mano, però quelli non c'è tastiera, quindi non ci vuole per forza un computer. E se non ci riesci basta venire qua. Oh, ma cosa usi tu? Che programma usi? Quello specifico oppure CIRP? Io c'ho un dischetto qua per il programma, mi sa che c'ho un CD, se no ricaghi su chi vai tu e vediamo cosa si può fare, o ce lo scarichiamo, CIRP, se vuoi CIRP. Ma io ho sempre preferito usare il programma specifico per le radio, CIRP non lo so, è una cosa troppo vasta, ma con certe radio non va. Quindi io dico sempre che il programma specifico per ogni radio è sempre il migliore. Sempre il migliore, ok. E se no porto il file da Bobonio, programma, e lo programmiamo col suo, sempre che sia possibile. Ok? Bene, vai Claudio. Sì, ma già si può programmare, sì, ma va bene così. Va bene, 8 e 8. In modo che sia perfetto, capito? Anche perché possono servire quelli per se facciamo qualche lavoro, uno sotto, uno sopra, capito? E sai che è programmato su quelle frequenze, va bene. Va bene. E come c'ho io ne ho due. Ci sono una la frequenza LPD e una la frequenza PMR, ma io preferisco sempre LPD. Per mille motivi, sto PMR a me no, che mi sia assai simpatico. Va bene, vai Natalia, rispondi a Marco, cos'è il tuo CIP, cos'è roba mania, patatina? Un programma è... Adesso vedo se ce l'ho quel dischetto, dovrei averlo qua. Ed è il suo proprio pezzo. Ma per quale radio? Per il BAO. Ma quale BAO? Il BAO ne fa un bel. Questo è l'888. Ma tu ce l'hai il programma originale? Io ho tutto, basta che il computer mi funzioni, cioè funzioni per programmare. Spero di sì, però dai, gli metto anche i driver del cavetto, USB, quelli... Ah, non mi viene il nome mai, vabbè, non mi viene il nome, ma ce l'ho, ho tutto. Speriamo che tutto vada bene, dai. Bene, bene, bene. Claudio, quando ti ho chiamato poc'anzi ero in via Savoia, proprio alle spalle di Scarpa, dietro Scarpa, via Savoia, aspetta, all'anima delle portate, eppure l'Intec MT5050, è un vero PMR quello. Quello è. Lui te l'ho già spiegato, risuona molto meglio nell'EPD che in PMR. Tu considera che è quella che ho io, l'antenna nella finestra, è proprio 430-440 UHF monobanda. E vi sento il doppio di vedere come mi sei. Sento Giulio da dentro casa, mentre con quella lì, a Giulio, mi apriva lo squelci ma senza segnale. Giulio in LPD e fondo scala, da dentro casa, Natalino a Santiago 9, mentre prima non arrivava, capite? È diverso, ragionano meglio le antenne, no? Troppo alta il PMR, a me non mi è mai piaciuto per quello, una frequenza troppo alta. Se l'avessero fatta intermedia, almeno a 4,38, cosa vuoi che ti dica? 4,42, ma 4,46 è troppo alta. Sì, non è nemmeno troppo alta. Pensa che certi dei servizi lavorano anche a 4,70, gli intorni. E va bene, sono contento, dai. Comunque hai ragione. Questo è MT5050, in PMR dà meno potenza, no? In LPD dà più potenza, proprio è tarato così, in basso dà più potenza. Anche il mio Vox, la stessa cosa, ecco perché ti ho detto te l'altro giorno, quanti watt dà il Vox in PMR, perché l'assorbimento era molto basso, mentre invece adesso l'assorbimento è 2 ampere, 1 ampere e mezzo, prima manco si muoveva, evidentemente sta dando tutti i 5 watt o 4 watt che dà, capito? È per quello, me l'ho detto, tanto non è che lo usiamo come monitor, così ogni tanto magari ci abbiamo questa accesa e anche l'altra se dobbiamo in full duplex, oppure fare due passaggi anche lì ogni tanto, ma non è che, però è molto meglio del PMR, a me lo PMR non mi piace. Vabbè, più sali più aumentano i problemi, poi ci vogliono antenne tarate, va bene. Bene, Natalia, a mangiare sta andando, ha detto? Ehi, al limite dopo già rientro, se ci sei. Oggi però chiudiamo presto, Claudio c'ha le partite, poi mi devo dedicare a queste radio, poi se c'è un film, poi vediamo, o prima il film e poi le radio, insomma, vediamo, dai. Comunque, se non ti funziona, vieni qua, ce ne sono due computer. Due, non era uno? No, uno è mio e l'altro è di mia moglie. Ah, bene. Che sistema operativo è? Io ho il 10 e mia moglie il 7. Ma il 10 è come il 7, è velocissimo. Comunque ho sentito che questi programmi, no, sul 10 non vanno bene, sul 7 sì, sul Vista 7 ancora sì. Cioè sul Windows 7 si funziona, sul 10 no, purtroppo no, ancora non ci sono arrivati. Mia moglie c'ha il 7, non c'è problema. Quindi come vedi non c'è bisogno di bau, basta con l'Intec, no, e va bene lo stesso. Bene va, non ce n'è problema, ma stai scherzando. Il gioco di Zen è cambiato dal giorno alla notte, me l'ho messo davanti adesso il Vox, a fianco al control box, che prima era in alto, con il portatilino nel suo portacoso, alimentato a 12 volt, sembra un veicolare, capite? Cioè direttamente l'alimentazione a 12 volt dall'alimentatore grande, quello a 60 ampere, quindi quando accendo tutto si accende anche quello, c'è l'antenna collegata. Molto meglio. Capito? Ogni appoggi? Mia moglie. Mia moglie che andava al telefono sentendo in Piazza d'Italia. E lo stesso anche a mamma al telefono stavo ci messe, anche perché le sue amicizie sono sorde. Quella Gavinuccia è sorda, quella Giuseppe che abita vicino è sordo, quindi è sempre a voce. E io abbassa le voci. Lascia vedere. Voi state lavorando in Beggia, la grande gente in Go con questo telefono in mano, una cosa che non sopporto, anche di quello che si ghiaccio, guarda, allucinante. Vabbè, io non sono mai voluto essere schiavo del telefono, anche se ho uno smartphone, no? È brutto essere sempre rintracciabili. Una volta c'era il telefono a rotella, telefonavo a casa, c'è Claudio? No, non c'è, buonasera. Adesso ti rintracciamo. sono ovunque, e se c'è la reperibilità peggio, devi essere reperibile, almeno per te no. Io già, se non voglio rispondere, già non rispondo. Ma cosa vuol dire? Io c'era un periodo che quelli che non avevo memoria non rispondevano. E poi l'azienda mi ha mandato una comunicazione di rispondere perché tutti i responsabili aziendali avevano il telefono aziendale che io però non avevo numeri, capito? Quindi quando mi chiamavano io non rispondivo. E alla fine risultavo sempre o non c'ero, qui o là. E quindi mi tocca rispondere sempre, a volte rispondo anche qualche rompipalle, non come l'altro giorno, che stavo lavorando, il 302, ho detto, boh, sarà a Milano, rispondo. E poi era dice imbecille offrendomi un pacchetto, tu guardi, io sto lavorando, mi lasci santa pace perché non ho tempo, ma aspetti, ma le sto dicendo, sto lavorando, non posso dedicare tempo, mi chiamo un altro momento. Ma ascolta, adesso mi ha rotto le balle, boom, e laggiù c'era il telefono. Ehi. Io ormai quando li sento chiudo direttamente, è il bello che richiamano, e dice, pronto, è il signor Marco? Ho detto, sì, sono io. La volevamo mettere al corrente sulla riduzione delle tariffe della bolletta Enel. Ah, chiuso. No, così no, le trovi una scusa, però questo insisteva, finito, ascolti, adesso mi ha scocciato, gli ho detto che sto lavorando, arrivederci, e gli ho chiuso il telefono, non mi ha più chiamato però, perché invece l'altro giorno, un altro 02, stavo con un ufficio, ho detto no, torna Guido, invece era l'ufficio di Milano, l'ufficio personale di Milano, perché l'ufficio nostro è a Milano, l'ufficio personale, ci abbiamo una Cagliari e una a Milano, capito? E quindi ho risposto, meno male che un responsabile personale che me lo va a chiedere delle cose. Però è una rottura di scatole, hai ragione tu, perché prima ti chiamavano a casa, c'è Claudio, no, non c'è, arrivederci, di che ho chiamato, va bene, poi quando arrivavo a casa mamma mi diceva, mica ha chiamato Costantino, va bene, già lo richiamo, io invece non chiamo mai nessuno. Adesso è una rottura di scatole allucinante con questo telefono, mamma mia, io figurati, guarda, ce l'ho ancora acceso da stamattina alle 6. Lo spengo verso le 11:30 così prima di andare a letto, lo riaccendo la mattina alle 6. E durante il lavoro dalle 7 che inizia il tran tran dalle 7 sino almeno a mezzogiorno e mezzo, all'una meno un quarto, il telefono ogni 10 minuti squilla, ogni 10 minuti squilla, oppure messaggi, oppure ti mandano foto di un impianto che c'è da prendere materiale, oppure mi mandano qualche comunicazione di avvicinarmi in cantiere perché c'è bisogno di me, oppure tutto romanzano uscì, allucinante. L'altra volta sono venuti almeno uno, erano in due, uno è salito, del tipico giacca bianca, cravatta e tesserino. Buongiorno, poi parlano sempre al plurale maiestatis, no, anche se so. Buongiorno, siamo qui per verificare, non so, la bolletta telefonica qua e là, no? Serve l'ultima bolletta, serve il numero cliente. C'è la Amazon, no, niente, no, non mi interessa. Diceva, guarda che le riduzioni, il telefono, la riduzione della bolletta aerea, no, non mi interessa. Allora scrivo, lei rifiuta? Sì, scriva che rifiuto, va insieme alla cura. Quelli sono di Enel Energia, vogliono l'ultima bolletta per leggere il numero cliente e affibbiarti un contratto di Enel Energia, capito? Usano tutti i trucchi, fanno finta di arrivare col tesserino, siamo dell'Enel, dovremmo verificare, ma l'Enel, se vuole verificare il contrattore, c'ha quell'affarino per leggere. Hanno rotto le scatole, capito, sia al telefono e sia anche a casa. Basta. Da quando c'è la legge sulla privacy, il numero lo danno a tutti, lo sai, a tutti lo danno il numero di telefono. Tutte le aziende che per cui devi accettare, com'è che si dice, il coso sulla privacy, dà il numero a tutte le aziende del settore, capito? Perciò ti chiamano tutti. Ogni volta mi arrivano cose sulle assicurazioni, sulla riduzione, sulle bollette Enel, su TIM, su non so cosa. Basta, è una continua invasione della privacy, altro che vabbè, purtroppo viviamo brutti tempi. Io so quante volte dico a mia moglie, guarda lo spioncino, non aprire a nessuno. ma io lo so che stanno girando con questi tesserini, questi di energia, capito? Questi di queste cose così, no? E io lo dico, vai, non aprire mai nessuno, a te non apre mai nessuno le sue cercane, prima invece abbiamo a tutti, cioè stare molto attenti, se entrano dentro e si è buttito, gli altri buchi più usci. Va bene, ok. Natalie. A mangiare adatto, Natalie. Soggi noggi, ho già mangiato. Perché hai fatto poca fretta? Ehi, ti dico, per mangiarci un piatto di pasta asciutta ci vuole molto, amico. Cazzo. Oggi stasera ho fatto i budini al creme caramel, l'ho fatto io. Leia, cosa hai usato? La base Elax oppure quella roba lì? Non lo sa. Claudio, aiutalo tu. No, cameo erano, di quelli cameo. Sì, sì, sì, le due, non mi ricordavo la trama, cameo ed Elax. Sono molto buoni, poi se ti metti latte intero, no? E un rosso d'uovo, te lo fa ancora più compatto, capito? No, mollizio, mollizio, te lo fa bello compatto. Dai che è arrivata mia figlia, io vi saluto, sono le 8:30, raga. Un abbraccio a tutti e due, ciao a chi sta ascoltando, un saluto circolare a tutti, dai. Ci sentiamo domani, perché non riprendo, che c'ho gente, è un casino, c'è la partita, eccetera, eccetera. È arrivata mia figlia con l'uomo, devo chiudere. Ciao a tutti, riprendi Natalino. Ciao club, un proseguo alle prossime. Avanti Marco. Aspetta Marcoli che mi ha salutato Giuseppe. Ciao Giuseppe, ci sentiamo a fine settimana. Ciao, un abbraccio, buonanotte, riprendi Marcoli. Sempre più basso. È sganciato, se no disturba, capito? Ma già è arrivato qua, Santiago 7. Ciao, ciao, ciao ragazzi, che c'ho gente, ciao. Ciao, buona cena, buon tutto, domani. A me belli di lusso sono usciti quelli al cioccolato. Belli compatti, senza mettere altro nulla. E cosa sono i belli? Come? Cosa sono questi billi? Quali billi? Ma hai detto billi? Ho detto, a me sono usciti belli compatti quei budini, quelli al cioccolato, senza mettere niente in più. Ho messo solo le bustine e basta, anzi quelli ha fatti mia moglie, ma belli compatti veramente. Adesso oggi li ho fatti io, però sono al creme caramello quelli che ho fatto io. Eia, noi al momento per non stare a preparare budini abbiamo quelli in creme caramel già confezionati, che apri e mangi, però la bontà di quello fatto in casa è migliore, fatto Elac, no, cameo. Poi vabbè, io ci mettevo il rosso dell'uovo per farlo anche più nutriente, latte intero e rosso d'uovo. Caspita, era bello, bello compatto, lo potevi tagliare col coltello per mangiarlo. E anche quelli sono usciti così. Adesso vedo questi che ho fatto io, li ho messi in frigo perché hanno raffreddato, li devi lasciare raffreddare e poi metterli in frigo. Secchi che le grandi mi sono usciti. Buono, buono. Gli altri gusti sono appoggiabili, tipo fragola, troppo stucchevole, nocciola, vabbè, nocciola è buono, però il creme caramel è il mio amore, è quello che preferisco. Poi da poco hanno fatto, cosa hanno fatto? Hanno fatto delle cose da preparare in casa che sono uno che sa di panna cotta, sempre della cameo credo siano, uno crema bruciata e l'altro cosa era? Li ho visti in televisione da poco, me. No, io non... Natali, ecco perché non mi fa condividere le cose. Aspetta un attimo. Oh, signor... Non riesco a condividere le cose. Ehi, fregatene. No, perché forse è bello, perché volevo condividere. E vabbè, domani guardiamo a vedere se possiamo fare qualcosa. Dillo a me, cosa è successo? Non lo so manco io perché non ho visto quello che sta facendo. Deve condividere delle foto, non so, non gliele fa condividere. Ho capito, certe volte, mamma mia. Un giorno non sapevo come mandarle, se guardavo una foto non sapevo come mandarla a una persona su WhatsApp. Non l'avevo mai fatto, avevo direttamente da chiamato la foto e poi mandata, ma già partendo dalle foto, no? Guardando le foto, poi me l'ha detto, me l'ha spiegato Claudio, mi pare, o chi, non mi ricordo, o tu me l'ha detto, non mi ricordo. Sono stanco per essere stato fuori 2 ore. Ma te l'immagini? Vabbè, Caipittina, sei stanco per essere stato fuori 2 ore. E io che raddoluri, adesso mi ho cambiato il medico, quel medico è una bomba, Marco. Oh! Io? Mi ha spiegato il motivo perché non potevo prendere gli antinfiammatori, io pensavo che mi facessero male, invece no, semplicemente non agiscono. Si azzuffano con l'aspirina, dai. E allora, mi ha dato il Brufen che è potentissimo, e in bustina, no? Però per 3 giorni, tanto mi rimane in circolo 3 giorni l'aspirina, per 3 giorni non la devo prendere. Siamo, non c'è nessun altro qua, no? Boh, non penso. Quindi siamo solo noi. Lo sto rivalutando quel PMR Intec. Caspita. Non c'è bisogno né bau bau né niente. Solamente ha l'antenna fissa, perché è un vero PMR. Fissa, non estraibile. Però come portatile già vedo che pompa. E te credo, quelli sono i più buoni che ci sono. Il 50-50. Sai quale mi sta piacendo, Natalia? Il Midland G9, quello con l'antenna lunga. Sempre PMR, Midland G9, mi piace, mi sa che ne ho parecchio. Appena più soldi. Perché non ti prendi quelli 8-8? No, vanno bene quelli 8-8. Sì, vanno bene, ma io l'ho avuto e non mi ci trovavo bene, cioè l'apertura specie un po' ritardata. E quindi io ce l'avevo uno, mi pare l'avevo dato a Pomponio, poi Pomponio l'aveva dato non so a chi, insomma se li ricomprati e così dai. No, preferisco molto l'UV5R Plus, quello per me è un bijou, è un bijou. 30 euro, a te le immagini, che vale più cose di quello che io avevo pagato negli anni 80, 750.000 lire, il Kenwood TH75, e c'aveva pure i subtoni opzionali, ma te le immagini. E cosa, Marco, che non ho seguito? Ho detto che costa 30 euro e anche i subtoni. Quando penso che negli anni 80 avevo comprato il TH75 Kenwood portatile, 750.000 lire, e aveva i subtoni pure opzionali, invece quello c'ha tutto, 30 euro e c'ha tutto. Naturalmente ha opzioni amatoriali tipo lo shift, che io non userei mai perché non sono radioamatore. Però per 30 euro vale, molti lo schifano, molti la considerano cacca quella roba, ma non è cacca, altro che, funziona benissimo. Ehi, cavolo, e vabbè, ma certi, sai cos'è? Certi radioamatori, no, li ho sentiti su Roger K. Dicono che i Bofender sono cacca perché loro hanno speso migliaia di euro per roba tipo Kenwood di Aesu, e allora non vogliono dare la soddisfazione agli altri, capito? Come dire, con 30 euro c'è un portatile che vale più che fa le stesse cose delle FT60, capito? Che costa, non so, quando sei 300 euro o quant'è. Ti pare che loro usino il Mau Mau, loro usano roba di marca, capito? C'è qualcuno c'ha questa cosa qua che non vuole dar soddisfazione, che è il Baofeng, perché lui ha pagato me dei... Invece molti radiatori, il Baofeng lo usano come? Sia in diretta sia per accedere ai ponti. Tutti l'hanno comprato il Baofeng quando è uscito, oppure il Vox, tutti l'hanno comprato, cani e porci, radiatori e non. Però non ti dicono che vanno bene, perché logicamente loro hanno cose più costose. Ma uno gli ha risposto, si vede che tu non li hai mai provati, perché vanno bene quanto gli altri. Certo, non hanno cose cose stratosferiche, GPS, quelle ce l'hanno, gli apparecchi digitali di Tera, quelli lì, quelli hanno anche il GPS. C'è un modello, il 390 mi pare, 380 senza GPS, quello digitale, e 390 anche GPS, per dire, no? E quindi, insomma, pure c'è, ma il Motorola è migliore. Sì, ma il Motorola ti costa mezzo stipendio, capito? Quello costa solo 30 euro. Frate, io che chiudo. Vabbè Marcoli, se vuoi chiudere, non c'è problema, io mi vai giù quello squadra mobile. Eia, tu mi avevi risposto quando ti ho fatto la domanda, se ti ricordavi quelle cabine, quelle torrette per chiamare la polizia, vero? Sì, che me lo ricordavo. Quella che c'era in piazza Castello. Veglia, dopo chiedo agli altri e vorrei vedere quanti si ricordano. Ma non se ne ricordava niente, non se lo ricordava. Beh, te le immagini? Manco Concetta se ne ricorda. Veglia, poi c'erano i ragazzacci, capito, che aprivano la... muovevano la leva, facevano le false chiamate, delinquenti. E una volta era successa una cosa che li avevano scoperti. Oh, e sussati? No, no, perché c'era, facevano queste chiamate qua, no, false, come stai dicendo tu. Però la volta che l'hanno fatta in piazza Castello c'erano quelli in borghese aspettandoli al varco. Eia. Quel Marchisio dell'antidroga ormai ci sarà in pensione, no? Ehi, già è un anno che è in pensione Marchisio. Mamma mia, con quel pizzetto, quegli occhiali tondi, pareva un pindaccio. Mefisto. Mefisto sembrava, Mefisto. E lui nicotina me quando trovava i ragazzi con la marijuana o altro. Ehi, non te lo guardare così, Marchisio era ispettore, mi. Anche se poi a Sassari alla fine lo conoscevano tutti. Dai Natalia, dai, mi ricordo un attimo, mi levo le scarpe, mi metto in libertà. Poi se c'è un film bello, prima mi abbaglio un film e poi gli programmo le radio. Ok, allora ci sentiamo la mano al limite. Se non ti funziona, non fare complimenti, già ce ne sono due qua compiuti. E io? La Biocco, ok Natali, dai, ci sentiamo, buonanotte, saluti in famiglia, a domani. Ciao, ciao.